Allora, buongiorno a tutti. Presentiamo adesso il libro Brigate Rosse a Milano, La colonna Walter Alasia, curato da un compagno della Walter Alasia, da Nicola De Maria, con la collaborazione di altri compagni all'esterno. Per le caratteristiche del libro, che si presenta un po' complesso, perché ha una parte di contesto, una parte di interviste, diciamo di testimonianza e poi una parte documentaria, abbiamo pensato di fare degli interventi che si costituiscono come dei tasselli, sperando di poi di ridare il quadro generale e di contesto che il libro propone. Per questo procederemo in questo modo. Interviene Pasquale sulla struttura, il lavoro fatto sul libro e anche sulla storia della colonna, che qualcosa in merito ce l'ha da dire. E poi Emilio, che si soffermerà sulla prima parte del libro, specie nella parte sulla metà degli anni 70, su alcuni noccioli fondamentali di quando si sviluppano, no? Le forme sia organizzative sia teoriche sulla lotta armata. E Pippo, che oltre ad aver difeso gran parte di quei compagni e anche di altri, ma sempre preziosi i suoi interventi in questo caso, perché non si limitano mai alla questione giuridica, ma danno sempre elementi sugli diciamo, gli strumenti che lo Stato di volta in volta si è dotato per affrontare i movimenti antagonista. Chiuderà Manolo, dell'edizione Pi Greco, che l'edizione che ha editato il libro, sul libro e anche su diciamo, progetti di lavoro, sull'lotta armata, sulla detenzione politica che loro stanno facendo. Questo è il quadro, poi dopo apriremo il dibattito, speriamo, auspichiamo di essere stati abbastanza chiari alla fine da dare elementi di discussione a tutti voi. Cominciamo. Pasquale, voi. Ah, di qua devo parlare, sì, giusto. Si può Allora, no, parlare senza poi va bene anche così, ci gridare. sta, come sta funzionando così, si sente? No, che vorrei registrare. Sì, Quindi è meglio che parli. si sente. Sì. Allora, questo libro intanto Nicola quando l'ha scritto non per creare una nuova lettura, un'interpretazione di quello che è stata, diciamo, la storia di quegli anni, ma semplicemente voleva dare proprio un contributo che si inseriva in quel contesto, in quel contesto di lotta, in quel contesto anche di confronto politico che c'era a Milano. Il lavoro che ho utilizzato per scrivere questo libro è un lavoro storico-scientifico, nel senso è uno studio basato su documenti, appunti e materiali dell'epoca. Perciò ci saranno ampi stralci delle direzioni strategiche, libri e documenti che formarono il dibattito in quel periodo. Inoltre, numerose testimonianze dirette di compagni del movimento che vissero quella stagione di lotte e di compagni che militarono nella colonna Walter Alasia, ai quali è stato chiesto di raccontare e testimoniare il dibattito e le lotte con lo spirito di quell'epoca. Da subito dopo il suo arresto, nel febbraio 82, Nicola ha trascritto su decine di quaderni quelli che sono stati i passaggi politici e il dibattito che aveva attraversato la colonna e a cui lui aveva dato il suo contributo fondamentale. La struttura del libro. Il libro è diviso in tre sezioni. La sezione A è La colonna Walter Alasia nella storia delle Brigate Rosse. Nella prima parte di questa sezione viene raccontato lo scontro di classe in atto alla fine degli anni 60, dopo le dure sconfitte del movimento operaio degli anni 50, con le ristrutturazioni e lo sviluppo nelle fabbriche della catena di montaggio. Con l'arrivo in massa di forza lavoro dal sud, cominciano dure lotte sulle condizioni di lavoro e rivendicazioni salariali. Lo svilupparsi del dibattito politico e dello scontro sociale alla fine degli anni 60 si avviano i primi momenti di ricomposizione di classe tra operai, tecnici e impiegati. Nella nuova fabbrica di quegli anni cresce la figura del tecnico, che nella fabbrica moderna assume sempre di più il ruolo del moderno operaio. Assume anche una grande importanza il ruolo degli studenti, che a partire dalle lotte alla Pirelli sono a fianco dei lavoratori. Aumenta notevolmente il numero di iscritti in quegli anni nelle università. La scuola di quegli anni, che non è poi tanto diversa da oggi, si strutturava sempre di più per fornire manodopera specializzata adatta alle nuove esigenze del processo produttivo, secondo le esigenze del capitale a quei tempi. Non è tanto diversa da oggi, esigenza che, come abbiamo visto, si è sviluppata nell'ultimo decennio più, sempre attraverso l'istituzione nelle scuole di stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro obbligatori e determinanti per il proseguo dei corsi di studi, stipulati tra aziende e scuola, che nei fatti sono solo lavoro precario non retribuito, un vero e proprio sfruttamento. E ancora corsi o giornate formative organizzate nelle università direttamente dagli stati maggiori dell'esercito. Formazione, la chiamano così, che nella maggior parte dei casi non risponde neanche al percorso scolastico che gli studenti svolgono, e cioè molto spesso completamente avulso dal piano di studi che hanno, ma che è sottoposta alle stesse condizioni che vivono i lavoratori salariati, di insicurezza, mancanza di garanzie, protezioni. Lo dimostrano i numerosi infortuni, anche gravi, avvenuti negli ultimi anni, le molestie sessuali denunciate da più studentesse, fino ad arrivare alla morte sul posto di lavoro degli studenti Lorenzo, di 18 anni, e Giuseppe, di 16. Con lo svilupparsi del dibattito politico al di fuori del Partito Comunista e del sindacato, il primo non rispondeva più all'aspirazione di cambiamento della società ed era sempre meno un riferimento politico, il secondo, il sindacato, sempre più mediatore e compatibile con le esigenze della produzione e dei padroni. Nelle grandi fabbriche milanesi nascono numerosi organismi come i comitati unitari di base, la Pirelli, gruppi di studio, la SIT Siemens, collettivi operai impiegati all'IBM, Philips, GTE, Autobianchi. Ma soprattutto nel libro viene evidenziato e documentato il ruolo importante e la capacità di dialettizzarsi che svolsero all'interno di questo dibattito e scontro sociale in fabbrica il collettivo metropolitano, il collettivo politico metropolitano prima e sinistra proletaria poi. Il collettivo politico metropolitano poneva il problema di superare la spontaneità del movimento proletario, creare il passaggio da aumento spontaneo a movimento organizzato, dall'attacco all'organizzazione del lavoro e alla condizione salariale nella fabbrica, nella scuola e nella società, si cominciava a sviluppare analisi e contenuti per rendere possibile un salto politico, cioè trasformare la lotta per i bisogni immediati in lotta di potere. Le Brigate Rosse, partendo dalla Siemens, indicavano i primi momenti di auto-organizzazione proletaria per combattere i servi e i padroni e i loro servi, con i primi attacchi alle auto di capi reparti e caporioni fascisti, sia nella Siemens stessa ma anche in altre fabbriche, Pirelli in testa. Man mano che lo scontro sociale si acuisce, si attuano forme di lotta sempre più incisive, come il blocco delle merci, gli scioperi a scacchiera, autoriduzione dei ritmi e del cottimo. Il livello di scontro si alza e la repressione, oltre che poliziesca, passa sempre più attraverso licenziamenti, serrate di fabbrica e chiusure dei reparti combattivi. Nei tre mesi dell'autunno caldo, il capitale non stette certo a guardare, i padroni passarono alla controffensiva. La Fiat, in seguito di uno sciopero in un'officina, sospende 4.000 operai. In seguito, la direzione della Pirelli, dopo uno sciopero di 24 ore, impone una serata parziale con la sospensione a tempo indeterminato di 12.000 lavoratori. Era ormai scontro aperto e nei tre mesi dell'autunno caldo, appunto, saranno denunciate ben 13.000 persone, tra operai, studenti e braccianti. Si moltiplicano le azioni contro i fascisti in fabbrica e in vari quartieri, per esempio Quartogiaro, quartiere dormitorio in cui loggiano la maggior parte degli operai dell'Alfa Romeo, dove i fascisti erano utilizzati in funzione antioperaia nel tentativo di bloccare le lotte. Erano anche gli anni delle grandi occupazioni di case, Viale Tibaldi, MacMahon e appunto Quartogiaro. Sempre in quel periodo la campagna contro la struttura di comando di fabbrica a Milano avviene il primo sequestro lampo, il dirigente della Siemens Macchiarini, poi l'Abate, noto fascista in Fiat a Torino, e poi ancora Minguzzi all'Alfa. In seguito Amerio, capo del personale alla Fiat, che venne sequestrato successivamente alla lotta dei fazzoletti rossi che occuparono Mirafiori alla fine di una lunga lotta contrattuale. Risultava sempre più necessario superare la fase di sola risposta alla repressione in fabbrica e nei quartieri, ma già dalla strage di Piazza Fontana fu chiaro che non si doveva più rispondere solo ai padroni, ma allo Stato, che aveva messo in campo tutta la sua forza terroristica. Non si trattava solo di dare risposte a un manipolo di fascisti, ma allo Stato che li usava. Le nascenti Brigate Rosse, a differenza di altri gruppi della sinistra extraparlamentare dell'epoca, lotta continua, potere operaio, avanguardia operaia, che anche loro comunque si ponevano il problema di come esercitare la forza nel movimento. Le Brigate Rosse criticarono sin da subito la teoria dei due tempi del processo rivoluzionario, preparazione politica e agitazione e propaganda prima, insurrezione armata poi, con la conseguente separazione del politico dal militare, del partito dall'esercito rivoluzionario. sempre in quell'epoca, quindi elaborano la loro proposta di organizzazione, che doveva essere politico-militare e costruita per linee interne alla classe, costruire l'organizzazione che fosse capace di dirigere non la lotta rivendicativa, ma sviluppare e orientare lo scontro politico contro il padrone, contro il potere dei padroni, è il compito dell'autonomia proletaria. La forza è l'unione dei compagni nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, negli uffici. La riflessione delle BR dopo la lotta dei fazzoletti rossi alla Fiat, che occupò Mirafiori per alcuni giorni, fu che nonostante ci fosse stata un'occupazione quasi militare, ciò non era stato sufficiente a cambiare i rapporti di forza a livello generale. Per dare continuità al potere proletario in fabbrica era necessario rompere l'accerchiamento e attaccare lo Stato. Con la campagna Sequestro Sossi comincia a definirsi il concetto di cuore dello Stato. Viene in prima istanza viene definito neogollista il progetto di riorganizzazione e accentramento e rafforzamento dell'esecutivo dello Stato in tutti i suoi centri di potere e che aveva la Democrazia Cristiana come forza trainante. Si comincia a elaborare la strategia per portare l'attacco al cuore dello Stato, che ebbe il suo momento più alto con la campagna di primavera e il sequestro Moro. Viene poi affrontata nella seconda parte di questa sezione l'esperienza della colonna Walter Lase negli anni 80-81, dopo gli arresti che praticamente portarono allo smantellamento della colonna milanese nel 78. Lì una parte dei compagni irregolari perdono completamente i contatti con l'organizzazione per circa un anno, fino alla fine del 79, tempo che dedicheranno a radicarsi maggiormente nelle fabbriche e nel territorio. Ripercorre inoltre il periodo in cui furono poi rilanciati i rapporti con l'organizzazione e durante il processo di Torino si creano rapporti con il collettivo dei prigionieri. Quando poi il centro, così veniva chiamata la direzione strategica, che era l'organo di direzione delle Brigate Rosse, quando poi il centro decide la ripresa di intervento a Milano dopo anni di quasi assenza totale, lo fa partendo con la campagna che aveva già preso via in altre città contro la militarizzazione dei territori e che a Milano si concretizzò con l'azione contro tre agenti Digos. Proposta della campagna che provocò un forte dibattito. La Lasi infatti riteneva fondamentale intervenire contro i mutamenti nati in organizzazione del lavoro, rispondere al duro attacco alla classe operaia che il capitale in crisi effettuava e si stava concretizzando in Fiat con la pesante ristrutturazione, fino al licenziamento di 61 avanguardie di lotta e la messa in integrazione di 25.000 lavoratori. In quell'anno erano circa un migliaio i rivoluzionari e le avanguardie di lotta imprigionati. Bisognava affrontare il nodo della volontà del capitale di far pagare la propria crisi ai lavoratori, che passava anche nelle medie e piccole fabbriche con la stessa logica, ristrutturazione, licenziamenti, cassa integrazione di massa, che appunto altro non era che un accompagnamento all'espulsione della fabbrica. Proposta che non teneva inoltre conto della specificità operaia milanese, dell'internità che i compagni avevano nelle lotte. L'operaio massa e le avanguardie di fabbrica erano sempre stati i riferimenti principali delle Brigate Rosse a Milano e dell'importante presenza che i compagni della colonna avevano nelle lotte. Va ricordato che l'Alfa Romeo e Sesto San Giovanni erano il secondo polo operaio in Italia. Così come non si tenne conto delle indicazioni che uscirono dal dibattito del processo torinese e dei prigionieri, che sostanzialmente sostenevano che il referente non potevano essere solo i gruppi post-77. A proposta del movimento proletario di resistenza offensiva aveva dato dei risultati per esempio a Roma, ma era molto limitante in una situazione come quella milanese. Dalla fine delle organizzazioni extraparlamentari si era ridotto notevolmente il ricambio di militanti rivoluzionari. La constatazione che viene fatta è che molti dei protagonisti più determinati del movimento del 77 sono giovani che arrivano allo scontro armato come prima esperienza politica. La scelta della lotta armata non è un frutto di un percorso di lotta come avanguardia, ma l'esordio nel conflitto sociale. Ci si poneva quindi il problema di ricostruire un percorso rivoluzionario, come già detto, per via interna alla classe, far crescere, preparare una nuova generazione di militanti, elaborare strategie, dare obiettivi in cui tutti i settori della classe potevano riconoscersi e lottare. Le indicazioni dei prigionieri ponevano nel dibattito la tematica dei programmi e la Lasi sui programmi si impegnò a fondo, sapendo bene che al momento erano in fase di elaborazione e solo con le lotte nel tempo sarebbero visti i risultati. La proposta dei programmi immediati o di lotta era sostanziata con la proposta di costruire organismi di massa rivoluzionari, cioè organismi politico-militari di combattimento che i proletari si danno a partire dalle lotte su bisogni immediati, rivoluzionari perché si formano avendo la prospettiva di affrontare lo scontro con, per il potere, a partire dal programma di lotta. Non c'è processo rivoluzionario senza la costruzione delle strutture rivoluzionarie di massa. Ciò che all'epoca chiamavano OMR, rivoluzione di massa, nella rivoluzione bolscevica sono stati i soviet e in Cina i comitati rivoluzionari. Questa è quindi una proposta di significato politico che va al di là della contingenza. Organismi e non ulteriori gruppi a cui era delegata la lotta di massa in una prospettiva più generale anticapitalista, antirivisionista e antiimperialista. E in questo c'è molto delle indicazioni che sviluppò il collettivo politico metropolitani nei primi anni 70. Gli organismi di massa rivoluzionari non potevano quindi essere legati solo alla fabbrica, al territorio, alle lotte in carcere, ognuno al proprio settore, ma dovevano unificarsi per effettuare quella ricomposizione di classe necessaria a contrapporsi allo Stato capitalista. Ma limitare lo scontro al solo intervento di massa, lo scontro tra capitale in crisi e operai, era già stato oggetto di critica da parte della colonna Walter Alasia, soprattutto perché avendo continuato ad agire come colonna dell'organizzazione, riteneva necessaria l'azione centrale dell'organizzazione, non solo per coordinare l'intervento a livello generale, ma dare un programma di fase immediato, chiaro e unificante a ciascun settore di classe, un programma in cui le masse si possono riconoscere e mobilitare. Le tesi di fondo che la colonna Walter Alasia proponeva erano i terreni su cui aveva concentrato la sua battaglia sin dall'inizio, internità alla classe e progettualità strategica, che si realizza attraverso gli organismi di massa rivoluzionari e l'organizzazione delle ragioni sociali dello scontro. Questi due temi presero corpo nel dibattito dell'agosto 70 che coinvolse tutti i militanti della Walter Alasia, una discussione che fu riportata proprio, che impegnovano tutta la colonna per mesi a discutere di queste cose. Tesi poi pubblicate nell'Opuscolo marzo 81. Così si aprì un confronto che portò l'Alasia a presentare le proprie tesi e poi ad agire senza il parere favorevole della direzione strategica. Non dimentichiamo che lo scontro operaio in quell'epoca era altissimo, con la sconfitta della Fiat attraverso il licenziamento dei 61 avanguardie di lotte e la messa in integrazione di 25.000 lavoratori. E le brigate di Genova e Torino, quelle delle grandi città industriali, erano state decimate e solo Milano in quell'epoca era in grado di rispondere. Ricordiamoci ancora che in quell'anno erano stati imprigionati un migliaio di rivoluzionari e avanguardie di lotta. In questo contesto prende il via la campagna fabbriche di Sesta San Giovanni. Comunque inizia una fase di divisione organizzativa all'interno dell'organizzazione generale, nelle Brigate Rosse. E nonostante che non ci fossero stati passi avanti nella ricomposizione dell'organizzazione, che anzi aveva subito una frattura ben più profonda con la rottura della colonna napoletana e il fronte carceri e di gran parte dei prigionieri che dettero vita in seguito alle Brigate Rosse e Partito Guerriglia. Divisione che in realtà non ridusse la capacità di intervento delle organizzazioni in quell'anno. Nell'81 era iniziato con il sequestro d'Urso a sostegno della campagna dei prigionieri, chiudere l'Asinara ad ogni costo, a sostegno delle lotte dei prigionieri all'Asinara, e continuata con i tre sequestri di lunga durata, praticamente in contemporanea, Sanducci a Milano, Cirillo a Napoli, Tagliercio a Mestre, che si dialettizzavano con la proposta di costruzione degli OMR, ma che soprattutto riprendevano le parole d'ordine e i contenuti dei programmi. Il ritiro della cassa integrazione, riduzione dell'area di lavoro, Milano e Mestre, e riduzione e requisizione degli alloggi sfitti nel dopo terremoto a Napoli. Dopo il terremoto c'era questo tipo di problema. L'81, inoltre, si chiuse con il sequestro del generale americano Dozier. Quindi erano praticamente in un anno 5 sequestri di lunga durata. Durante quegli anni l'Alasia, come si è detto prima, aveva comunque continuato a muoversi come colonna dell'organizzazione. L'obiettivo rimaneva quello della riunificazione delle lotte, delle componenti, di tutti i componenti delle Brigate Rosse. Doveva essere una ricostruzione di unità sostanziale raggiungibile solo nel tempo e sul terreno dei programmi e dei suoi contenuti. Nella sezione B, testimonianze collettive, sono riportati i racconti di compagni che hanno militato nella colonna Walter Asia e altri compagni di movimento, con testimonianze dirette sul Giambellino, Lambrate e Leoncavallo. E uno scritto di uno dei compagni che fondarono il collettivo Mamme del Leoncavallo. Alcune di queste testimonianze sono state raccolte da Orso alla Casa Grande e poi assemblate assieme alle altre da Nicola. Sempre nella sezione B si parla di come era strutturata la colonna Walter Lasia, cioè in fronti e brigate. Riprendeva sostanzialmente l'organigramma dell'organizzazione. Il fronte di massa che coordinava il lavoro delle brigate, il fronte logistico che si doveva pensare alla logistica, insomma, case, soldi, e il fronte controrivoluzione, le varie inchieste sulla controrivoluzione. Le brigate erano quelle dell'Alfa Romeo, Sesto San Giovanni e la Brigata Ospedalieri. Ma per alcuni periodi, per un breve periodo, ci fu anche una brigata fabbriche di Lambrate e alcune brigate territoriali che intervenivano nel quartiere ticinese, Lambrate, Sesto San Giovanni, Quarto Giaro e Giambellino, oltre a quelle di Varese e Brescia. Nell'autunno 80, con la campagna di Sesto San Giovanni, parte con gli attacchi ai dirigenti dell'Ercole Marelli e della FALC, mettendo in luce il ruolo delle partecipazioni statali e del capitale privato nella ristrutturazione in atto. Successivamente viene colpito il capo della Breda, che aveva il compito di coordinare i vari capi reparto, e contemporaneamente nella stessa campagna vengono attaccati tre capi reparto dell'Alfa Romeo. In seguito viene effettuato il sequestro di un capo reparto della Breda, particolarmente odioso a tutti, che venne legato ad un palo di fronte all'entrata della fabbrica. La campagna Alfa Romeo è stata certamente la più complessa, era una brigata che già dalla metà degli anni 70 era presente in fabbrica e si era espressa inizialmente con attacchi alle auto di vari caporioni e caporeparto, e in seguito al sequestro del dirigente responsabile degli incaricati del controllo dei tempi e metodi, azione che si dialettizzò in quegli anni con le forti lotte contro il cottimo e il continuo aumento dello sfruttamento. La brigata venne ricostruita, quella dell'Alfa Romeo, a partire dal 77 e agì con vari attacchi ai capi reparti compiuti, molto spesso compiuti all'interno della fabbrica stessa, dialettizzandosi con quei reparti in lotta più significativi. Tra l'altro, anche con la lotta contro gli straordinari e il sabato lavorativo concessi da sindacato e PC per produrre il nuovo modello dell'Alfa, che ironicamente veniva chiamato Berlinguetta. Lotte che portavano tutti sabato, per parecchi mesi, migliaia di lavoratori e compagni dell'area milanese a bloccare gli ingressi dell'Alfa Romeo. Erano anni in cui il PC e il sindacato portavano avanti la politica della cogestione della crisi e della riconversione industriale. L'azione di propaganda nello stabilimento per la Lasia è sempre stata fondamentale. Per esempio, il giorno del rilascio di Sandrucci, dirigente sequestrato per circa un mese, furono distribuiti centinaia di volantini e appeso uno striscione di una decina di metri in un reparto di 800 lavoratori. Questa cosa venne fatta durante il giorno, non venne fatta, quindi i lavoratori videro, ma nessuno ebbe nulla da obiettare, da dire, insomma. Durante il periodo del sequestro furono distribuiti 8 comunicati e l'autointervista. Ogni comunicato affrontava un argomento. Per esempio il numero 3 era sulla proposta di costruzione di organismi di massa rivoluzionari. Il numero 4 invece era interamente dedicato alla ristrutturazione Fiat dopo la sconfitta degli anni 80 e sui processi di ristrutturazione in atto. Questo comunicato c'era un'analisi articolata d'inchiesta reparto su reparto proprio sulla ristruzione che c'era in atto. Questo a dimostrazione dell'importanza che la Lasia dava al rilancio dello scontro a Torino e quindi l'impegno che metteva per la ricostruzione di una brigata. Nel comunicato numero 6 venivano spiegati i due immediati di quella campagna che erano la campagna quella di Sandrucci, del sequestro Sandrucci, che erano il ritiro immediato della cassa integrazione a zero ore e dei provvedimenti disciplinari contro gli operai dell'Alfa Romeo, pubblicazione integrale e massima rilevanza del materiale politico dell'ordinazione e agli obiettivi che la classe operaia Alfa, Fiat e Montedison si stanno dando contro l'attacco al padronato. Sandrucci poi venne liberato, rilasciato davanti ai cancelli della Magneti Marelli, una grossa fabbrica dell'indotto Fiat a Sesto San Giovanni. Oltre alla propaganda, l'inchiesta operaia ha avuto una notevole importanza, nel senso che l'inchiesta è stata assunta a metodo di lavoro dall'organizzazione e l'inchiesta veniva concepita come strumento di conoscenza dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro in fabbrica e in generale nel territorio, i piani di urbanizzazione, aziendalizzazione e privatizzazione della sanità. Inchiesta come strumento pensato per accrescere un sapere collettivo proletario d'analisi e per acquisire maggior potere di intervento nell'individuare i punti deboli del sistema di sfruttamento, di accumulazione e di esercizio del comando. Inchiesta che era stata possibile proprio dall'internità che i compagni avevano nei posti di lavoro e dal contributo di altri lavoratori, quindi una rete di appoggio che nelle fabbriche era molto sviluppata. Nel policlinico, in seguito alla lotta autonoma del 77, una lotta oltranza che fu duramente repressa con l'intervento della polizia all'interno dei reparti, proseguita con licenziamenti, arresti e un processo a carico di 28 lavoratori, inoltre denunce, provvedimenti disciplinari vari. A seguito di questo si forma il Brigata Ospedalieri, che si pone il problema della ripresa delle lotte e superare i limiti evidenziati dalla lotta del 77, una riflessione quindi sui programmi di lotta e sulle proposte degli organismi di massa rivoluzionari. La Brigata Pelli aveva fin da subito centrato il suo lavoro contro la ristrutturazione dei reparti e la redistribuzione delle mansioni e i carichi di lavoro all'interno dell'ospedale, contro i piani di riduzione dell'ospedalità di massa e contro l'ospedale azienda. Sviluppò l'analisi sul ruolo della Democrazia Cristiana che attraverso il piano Fandolfi lanciava il suo attacco contro la sanità pubblica, convogliando i soldi della spesa pubblica alla sanità privata, attuando piani di ristrutturazione che andavano a peggiorare le condizioni di lavoro e sfruttamento e riduceva l'assistenza ai malati, privilegiando i grossi centri di ricerca subordinati alle case farmaceutiche, quelle che oggi chiamiamo Big Pharma. Analisi che si rivelò lungimiranti alla luce di quanto è successo in seguito alla sanità e che la pandemia ha messo solo maggiormente in luce. Uno smantellamento della sanità pubblica a favore del privato e un processo di aziendalizzazione del pubblico che ha causato un'estrema precarizzazione dei rapporti lavorativi attraverso l'utilizzo di cooperative e agenzie di lavoro e differenziazioni contrattuali. Nella sola sanità esistono almeno 5 contratti diversi e con l'intensificazione della giornata lavorativa, abbassamento del costo del lavoro e prestazioni con tempi di attesa sempre più lunghi e sempre meno attenti alla salute delle persone. Un sistema sanitario che ha messo in evidenza il suo carattere classista, che non si può, chi si può e potrà curare sarà chi potrà permetterselo economicamente accedendo alle cure private. Alcuni dei punti del programma di lotta erano l'abolizione di tutte le condizioni nocive, sia in ospedale che nel territorio. Nessun ammalato deve essere usato come cavia per le sperimentazioni di baroni o case farmaceutiche. Nessun aumento dello sfruttamento, nessuna riduzione d'organico. O assunzione a tempo determinato, abolizione delle gerarchie e di tutte le strutture di controllo. Quella del policlinico era una brigata composta interamente da donne e inizia ad agire a partire dal 78-79 con attacchi alle auto di capi reparti, di capi infermieri e ferimenti di alcuni di essi, e culmina con una grossa azione di propaganda all'interno dei reparti dell'ospedale dopo l'attacco al primario dell'ospedale Marangoni. La colonna Valtare Alasia, pur essendo anagraficamente molto giovane, era attenta all'intervento nelle varie situazioni. I volantini erano sempre lasciati all'interno delle fabbriche, negli ospedali e nelle scuole, nei consigli di fabbrica, in luoghi simbolo o frequentati dai lavoratori. La distribuzione dei materiali di propaganda era continua e molto spesso erano i lavoratori stessi a far ricircolare i materiali, lavoratori non appartenenti all'organizzazione, a dimostrazione proprio del radicamento all'interno degli stabilimenti. Il tipo di propaganda, i rilasci Sandrucci vennero annunciati da altroparlanti montati su biciclette e su auto lasciati davanti ad alcune fabbriche che diffondevano un nastro registrato. Ovviamente esistevano differenti attacchi verso il comando di fabbrica, per esempio quel capo alla Breda particolarmente odioso che fu legato davanti a un palo di cancelli. E ancora, il giorno della liberazione di Sandrucci erano previsti 3 sequestri in lampo di dirigenti di fabbrica che non andarono in direzione voluta proprio per la poca esperienza di alcuni giovani militanti. Quindi non è che fosse tutto. Nella sezione C si trovano tutti i documenti di quel periodo storico, compreso l'opuscolo marzo 81, che, come dicevamo, assieme all'autointervista del sequestro Sandrucci elaborano le tesi dell'agosto 80 e rappresentano le linee guida e possono essere considerati i documenti che contengono le proposte strategiche della colonna Walter Alasia. Si trova inoltre un lavoro di inchiesta, il dossier Alfa Romeo, quindi tutto il lavoro di inchiesta che si fece sull'Alfa Romeo, così come l'aveva pubblicato all'epoca Controinformazione. Infine, come allegato, viene pubblicato il quaderno numero 8 delle Brigate Rosse, per evidenziare la continuità dell'intervento prima dei fatti dell'80. Allora, questo era un po'... Io volevo solo aggiungere una paginetta, proprio ho finito. Vai, sono i tempi. Allora, questo lavoro è stato fatto da un compagno incarcerato da oramai più di 40 anni, prigioniero con altri compagni che non sono scesi a compromessi con lo Stato, lo Stato che pretende, oltre alla biura, che loro stessi si facciano portatori, che diventino i narratori della sconfitta del ruolo delle guerriglie nello scontro di classe. Ammissione che significherebbe disconoscere le ragioni storiche che hanno portato a tale scelta. Sarebbe come dire che le contraddizioni di classe esistenti oggi, così come ieri, siano solo un grande sbaglio di analisi, che il capitalismo e la sua organizzazione economica e sociale è l'unico modello possibile e che con esso ci si può democraticamente dialogare. Sappiamo invece che le contraddizioni di classe sono ancora più forti, come più forte è la necessità di lottare, e le forme e i modi sono solo prerogativa della nostra classe. Di fronte alle condizioni poste dallo Stato, inaccettabili eticamente e politicamente, al di là di come uno la possa pensarla, lo Stato ha scientemente realizzato negli ultimi decenni, progressivamente e pesantemente, una cappa di silenzio intorno a questi compagni, con lo scopo di cancellare dalla memoria la loro stessa esistenza fisica e con essa politica. Processo che è viaggiato parallelamente con le sconfitte del movimento di classe, l'indebolimento delle lotte e della forza dei lavoratori. Questo libro testimonia questa presenza, ricorda a tutti che esistono, che hanno fatto e sono parte della storia della lotta contro il capitalismo per la costruzione di una società libera dallo sfruttamento e dall'oppressione. Attualmente ci sono circa 20 compagni imprigionati, molti hanno superato i 40 anni di prigionia ed inoltre 3 compagni sono in regime di 41 bis da oltre 18 anni, perché appunto non hanno fatto abiure sulla loro militanza politica o accettato compromessi con lo Stato. Finito. Grazie Pasquale, come avevamo detto prima, adesso Emilio che si soffermerà su alcuni, sulla parte di contesto di cui faceva riferimento Pasquale, su alcune questioni politico di quel periodo, storico di quel periodo. No, funziona. Ah, ok. No, niente. Ok, allora. No, l'intervento che volevo fare io riguarda un po' più la prima parte del racconto. Della storia che viene raccontata nel libro di Nicola e Company, diciamo. E volevo interessarmi più che altro di un punto di svolta, secondo me, che sono collocabile nel 73-74 per la crescita della lotta armata in Italia, in quanto secondo me si supera una prima fase, diciamo, che a mio parere la definisco pionieristica. E invece nel 73 cambia tutto, non cambia solo il dibattito, ma il dibattito cambia sulla base del contesto generale che cambia, che si è modificato completamente. Quindi una crisi economica molto pesante, una crisi mondiale, una crisi che vede una ristrutturazione fatta di introduzione dell'informatica e dell'automazione nei cicli produttivi, è fatta di finanziarizzazione e delocalizzazione, quindi diciamo la globalizzazione. È una ristrutturazione che in Italia non riesce a passare perché la classe operaia italiana è l'anomalia del nostro paese, è la classe operaia più forte, più combattiva di tutto il sistema capitalistico. Abbiamo l'Italia considerata l'anello debole del capitalismo e riviste come il Financial Times che addirittura pone la possibilità che l'Italia esca dal sistema capitalistico per questo motivo. Insieme a questo in Italia, quindi una doppia crisi, diciamo quella italiana. C'è la crisi, una crisi politica ormai aperta, una crisi politica che vede un sistema dove le riforme sono fallite, dove continua la crisi di governo, i primi scandali finanziari, petrolio, gli scandali del petrolio e della Lockheed. Contemporaneamente è ancora aperta l'opzione reazionaria, quella più aperta è quella delle stragi, quella dei tentativi di golpe, e quindi diciamo che la politica chiederà supplenza, incapace di affrontare la crisi, chiederà supplenza in particolar modo alla magistratura, alla stampa, a personaggi come dalla Chiesa e anche ai sindacati. La novità politica più importante di questo 73-74 è data sicuramente dalle tesi sul compromesso storico presentate da Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, che all'indomani del golpe cileno di Pinochet in Cile le pubblica in tre articoli su Rinascita e in estrema sintesi arriva a sostenere che anche qualora il Partito Comunista avesse vinto le elezioni politiche del 76, cioè cosa possibile e anche probabile visto il trend del Partito Comunista in quel periodo, trend elettorale, non avrebbe governato, non avrebbe fatto solo un governo delle sinistre, ma avrebbe coinvolto direttamente anche l'altro grande partito popolare italiano che era la Democrazia Cristiana. Quindi in un colpo solo praticamente 25 anni di ipotesi di alternativa politica per via istituzionale viene a crollare. Questo comporta chiaramente... queste tesi trovano in degli interlocutori ovviamente, in Agnelli che diventa presidente di Confindustria nel 74 e particolarmente in Moro nella Democrazia Cristiana, e questi chiedono al PC la cosa più importante che gli preme, cioè di riportare la disciplina all'interno delle fabbriche senza creare scossoni sociali. Se dovesse fallire questa ipotesi, ovviamente c'è ancora buona quella diciamo più reazionaria, quella diciamo delle stragi. Quindi il PC parte all'attacco, si fa disponibile a questa richiesta e lo fa a tutti i livelli delle sue strutture, utilizzando anche quelle sindacali. Un attacco che va su due piani. Una è diminuire costantemente l'importanza dei nuovi istituti di rappresentanza operaia, della classe operaia, provenienti dal 68-69, quindi dare sempre meno peso e importanza ai consigli di fabbrica e delegati di reparto. E dall'altra invece c'è un attacco diretto a chi si oppone diciamo a questo processo di ristrutturazione. Quindi un attacco che da una parte è diretto alle avanguardie rivoluzionarie, ma dall'altra anche a quell'area di dissenso al proprio interno, un'area di dissenso che è di una discreta, di una grossa consistenza. Non tutti accettano anche all'interno dei riformisti questo cambiamento completo di linea politica. L'attacco è a 360 gradi, è un attacco che vede perdita di agibilità politica, di diritti sindacali, fatto di minacce, intimidazioni fisiche, verbali dentro e fuori dalla fabbrica, è fatto di denunce alla magistratura e alle direzioni aziendali, è fatto di espulsione dai consigli di fabbrica e dagli sindacati, è fatto da una campagna di calunnia e di disinformazione. Davanti a tutta questa situazione, quindi, vediamo come il contesto è molto cambiato rispetto al periodo immediatamente precedente. E questa cosa chiaramente ne viene a risentire anche il movimento rivoluzionario e anche quindi anche chi si pone in un'ottica apertamente di lotta armata. Innanzitutto abbiamo che i vari gruppi, diciamo, che si hanno fatto la lotta armata precedentemente, ad esclusione delle Brigate Rosse, di fatto scompaiono. Ma le stesse Brigate Rosse cambiano linea politica, nel senso che inaugurano la stagione dell'attacco al cuore dello Stato. Ma anche all'interno del resto dei gruppi extraparlamentari che avevano visto dal 70-73 diciamo il loro periodo d'oro, e con ipotesi diciamo di cambiamento radicale in tempi molto brevi, in realtà vedono che questi tempi non sono poi così brevi, e quindi da una parte la crisi della militanza, ma dall'altra tutti i gruppi vengono interessati da profondi cambiamenti. C'è chi si scioglie, c'è chi cambia linea politica in maniera molto pesante, c'è chi... insomma, la crisi provoca dei grossi cambiamenti. Provoca dei grossi cambiamenti, però ecco, l'aspetto più forte, che è quello che poi porta a alcuni gruppi a considerare l'ipotesi della lotta armata estremamente importante, è che il movimento tiene. Il movimento tiene, e ci sono numerosi esempi, come appunto citava prima Pasquale, l'occupazione di Mirafiori nella primavera del 73 durante il contratto dei metalmeccanici privati, e porta a un contratto che ha dei risultati clamorosi, che sono diciamo l'unificazione, l'inquadramento unico per impiegati, l'aumenti salariali uguali per tutti, l'introduzione delle 150 ore. Calcoliamo che nel 75 viene concesso il punto unico di contingenza. Cioè, sono tutte cose che hanno dell'incredibile vista oggi, secondo me. Ma in più c'è lo sciopero lungo del 74, ci sono le manifestazioni antifasciste dopo la strage di Piazza della Loggia a Brescia, che sono molto di massa in tutta Italia, estremamente violente. Abbiamo la rivolta di San Basilio, poi nel 75 le giornate d'aprile. Quindi diciamo che dalla lettura di questo movimento che tiene nasceranno poi dopo delle diverse interpretazioni su come andare avanti. Mi riallaccio appunto all'idea appunto dell'attacco al cuore dello Stato. Diciamo che la borghesia intende fare della crisi un uso politico. I comitati comunisti, per esempio, parleranno di terrorismo antioperaio, perché attraverso lo strumento inflattivo e lo spauracchio della disoccupazione, la borghesia intende dare una sconfitta epocale a quella classe, a quell'autonomia operaia che è ancora estremamente forte all'interno, in quel periodo in particolare, delle fabbriche. E quindi diventa un attacco tutto politico, non è solo un attacco interno per riprendere potere nelle fabbriche, è diventato un attacco alla classe intesa proprio come espressione dell'autonomia. Ecco, in questo, nell'ambito della crisi, altre due considerazioni che vengono fatte, secondo me, all'interno, in maniera abbastanza diffusa all'interno del movimento rivoluzionario, è che innanzitutto non è possibile un uso del riformismo all'interno della crisi. La crisi è troppo forte, la borghesia vuol dare una sconfitta troppo decisa e radicale alla classe operaia, e quindi il riformismo in realtà non ha nulla da offrire alla classe in cambio della ristrutturazione. Dall'altra parte abbiamo una classe operaia che non, un altro feticcio che viene a cadere è che la classe operaia non è più unita. Non c'è l'unità, lo slogan era l'unità della classe operaia. La classe operaia si divide fondamentalmente in tre grossi settori, destra, sinistra e centro, diciamo. Una destra che è quella riformista, è quella che ha accettato di far passare la ristrutturazione nelle fabbriche. Abbiamo un grande centro che si colloca a seconda delle convenienze, e poi abbiamo la sinistra che è quella rivoluzionaria, quella che intende perseguire appunto l'autonomia all'interno e all'esterno delle fabbriche. Il punto più alto di espressione di questa autonomia è sicuramente l'occupazione di Mirafiori, è considerato il punto più alto e anche un punto non oltrepassabile di forza dell'autonomia operaia nelle fabbriche. Cioè, una volta che è occupato lo stabilimento di Mirafiori, il più grande stabilimento in Italia, è impossibile immaginare all'interno delle fabbriche qualcosa di più. Quindi anche, non solo la borghesia quindi sposta con l'uso politico della crisi, ma anche all'interno di una componente del movimento rivoluzionario c'è questa idea di spostare l'attenzione dalla fabbrica al potere, sostanzialmente. E qui si aprono tutte le diverse ipotesi su come farlo, questo passaggio politico. Per esempio, voglio dire, la stessa lotta continua nel periodo fa una sorta di passo indietro. Non dimentichiamo che già in questo periodo alcuni gruppi extraparlamentari, diciamo, che dirotolano la loro attenzione dal movimento più verso una via istituzionale, più verso una via elettorale. Lotta continua non è a questi livelli, ovviamente, però anch'essa vede la necessità di fare un passo indietro, di rivolgersi un po' a quella che veniva chiamata la media età operaia. Quindi, per esempio, spinge i propri militanti operai a entrare a far parte dei consigli di fabbrica, cosa che prima non esisteva. Arriverà poi successivamente all'idea del PC, di dare il voto al PC alle elezioni amministrative del 75. Questo è un fatto importante perché nella discussione che poi avvenne al congresso del gennaio del 75 in lotta continua si apriranno grosse fuoriuscite, importanti fuoriuscite dall'organizzazione che non è convinta di questa parola d'ordine e anzi invece spinge più verso una radicalizzazione dello scontro. L'idea di lotta continua era che il PC andava al governo, avrebbe governato assieme, poi questo poi chiederò conferma a Gino, il PC al governo insieme ai gruppi rivoluzionari, sotto la spinta delle masse popolari che l'hanno eletto, queste avrebbero fatto richieste sempre più radicali e quindi il PC si sarebbe trovato davanti a un'alternativa. Da una parte poteva spingere queste richieste, accettarle, farsene promotore, ma questo avrebbe portato a una risposta estremamente violenta della borghesia. Dall'altra parte invece avrebbe svelato il proprio vero volto riformista, non avrebbe dato seguito a queste proposte e quindi avrebbe fatto comunque il gioco dei gruppi rivoluzionari. Questa ipotesi ovviamente trova molte critiche sia al suo interno ma anche all'esterno, e invece c'è chi sponsorizza l'idea che ci sia necessità, cioè che la forza operaia, la forza era talmente forte ma non riusciva a trovare uno sbocco organizzativo che permettesse di trasformare questa forza all'interno della fabbrica all'esterno, farla diventare una forza politica, e quindi c'era bisogno dell'organizzazione. Dico questo perché lotta continua e volevo arrivare a questo episodio che avviene alla metà degli anni 70, dell'anno 74, che Odogan, una ventina di militanti di lotta continua, esce dalla sezione Sestese, sono quadri operai e qualcuno del servizio d'ordine, e esce su un'ipotesi di dare proseguio alla radicalizzazione per formare un'organizzazione che faccia la lotta armata. E questi cercano, questo grazie anche al fatto che al Comitato della Breda lavorano Arialdo Lintrami, Raffaele Fiore, un contatto con le Brigate Rosse. E questo è importante perché con le Brigate Rosse? Perché entrambi hanno la centralità operaia come come bussola del proprio intervento politico, e poi perché le Brigate Rosse sono l'unico gruppo che fa lotta armata che è rimasto in vita dei primi, quindi ha un'organizzazione che ha già un'esperienza. E il fatto della fabbrica è importante perché, come diceva anche prima Pasquale, le Brigate Rosse nel 73 intervengono a Mirafiori, intervengono in particolar modo col sequestro a Merio, e chiaramente per chi si interessa di classe operaia vedere un'organizzazione che intanto ha dimostrato soprattutto di essersi espansa anche dal punto di vista territoriale, quindi andando verso le fabbriche torinesi, andando verso Mirafiori. Quindi l'interesse c'è delle due parti. Non va a buon fine evidentemente questo approccio, no, assolutamente, perché si scontrano due linee di intendere la lotta armata che poi saranno le due linee maggioritarie che caratterizzeranno la lotta armata in Italia da allora fino anche negli anni successivi. Nel 74, cos'è, quando praticamente si incontrano, c'è stato il sequestro Sossi, l'attacco al cuore dello Stato. Ecco, per i comitati comunisti, io li chiamerò comitati comunisti, questi fuoriusciti, anche se non so se poi erano già comitati comunisti a metà del 74, comunque li chiamerò così. Criticano l'azione Sossi perché a loro parere non ha due delle caratteristiche che deve avere qualunque azione armata, che sono l'internità al movimento e la sua riproducibilità. Evidentemente l'azione Sossi è un'azione imposta dall'alto, dall'organizzazione del movimento, ed è chiaramente difficilmente ripetibile all'interno del movimento. Ma non è semplicemente una critica sull'episodio, è proprio che si scontrano, iniziano a scontrarsi, cioè emerge, diciamo, la differenza di impostazione sulla lotta armata. Da una parte abbiamo appunto le BR che hanno questa unidimensionalità, che vedono la lotta armata non come un metodo di lotta, ma come la lotta, che quindi individuano la clandestinità come uno dei fattori imprescindibili della propria organizzazione. Dall'altra parte invece abbiamo i comitati comunisti che vedono la situazione, la vedono completamente diversa, si vedono come uno strumento di servizio del movimento. Per intenderci, da una parte c'è chi intende costruire il movimento intorno alla guerriglia e chi invece intende costruire la guerriglia intorno al movimento. Quindi sono due impostazioni che sono molto molto diverse, anche se portano nella stessa direzione dal punto di vista di metodo, se vogliamo. I comitati comunisti non sono per la clandestinità, sono per unire la lotta legale alla lotta illegale, quindi hanno un dibattito anche su come interpretare la lotta armata completamente diverso. Si parla di bi-univocità del quadro militante, che deve essere quindi politico e militare contemporaneamente. C'è un forte dibattito al loro interno sulla salvaguardia del, adesso dico il termine giusto che chiamavano, era, aspetta, la preservazione del quadro dirigente. È chiaro che le Brigate Rosse questo problema non ce l'hanno, perché lavorando in un'ottica di clandestinità il quadro si preserva con la clandestinità. Per chi invece intende la lotta armata all'interno del movimento, rimanendo all'interno del movimento, questo è importante. È un dibattito che durerà più di un anno all'interno di questa area. Cioè se i quadri diciamo tra virgolette più elevati dell'organizzazione devono partecipare o meno alle azioni illegali, diciamo alle azioni armate più chiare. Questo dibattito porta a un risultato finale che è no, il quadro non deve essere preservato, anzi la dirigenza sono i responsabili, sono quelli che decidono, spesso hanno più, diciamo, potere di decisione degli altri, e quindi devono essere i primi protagonisti delle azioni armate. Questo porterà poi anche a dei disastri, diciamo, dal punto di vista militare, in quanto, per esempio, Prima Linea nel primo anno di vita vede tutti e cinque i membri del proprio comando nazionale finire in carcere, questo per dire. Un altro aspetto di differenza è che mentre da una parte la lotta armata è strategica, quindi si costruisce il movimento attorno alla lotta armata, dall'altra parte invece è un semplice metodo di lotta, tanto che si teorizza la possibile reversibilità della lotta armata. Quindi gli obiettivi sono diversi: da una parte abbiamo l'obiettivo, è quello della costruzione del partito comunista combattente nell'ottica dell'attacco al cuore dello Stato, dall'altra abbiamo invece l'idea di arrivare a sollecitare forme di armamento operaio aiutando, diciamo, gli organismi autonomi delle fabbriche a costruire le ronde e le squadre come elementi. Quindi all'interno delle fabbriche c'è anche qui delle grosse differenze di visione tra le due aree. Da una parte abbiamo che la brigata di fabbrica, per le Brigate Rosse evidentemente, è l'organismo centrale dell'intervento in fabbrica, mentre gli organismi autonomi sono considerati delle cinghie di trasmissione, se vogliamo. Questo è abbastanza chiaro leggendo la risoluzione del 75, e anche il giornale, questo viene citato nel libro peraltro, questo che sto dicendo, e anche nel giornale Lotta Armata per il Comunismo delle BR, che si rivolgendosi agli operai, alle avanguardie di Mirafiori, li invitano a entrare nell'organizzazione per la costruzione del partito nell'ottica dell'attacco al cuore dello Stato. Non ci sono riferimenti pressanti nei confronti del lavoro di massa. Questa qui chiaramente è un'ipotesi completamente diversa da quella dei comitati comunisti, che appunto invece hanno nei comitati operai, cioè negli organismi autonomi, il loro vero fiore all'occhiello. Quindi stiamo parlando quindi di comitati operai che non sono dell'organizzazione, ma dove l'organizzazione interviene al loro interno, e quindi il comitato della Marelli, c'è la Filco di Ponte San Pietro, la Teletra di Vimercate, la Carlo Erba di Rodano e la FAC di Sesto. Questi sono i loro punti, diciamo, di forza. A proposito dei comitati, degli organismi autonomi, le Brigate Rosse portano anche delle critiche piuttosto pesanti, non pesanti, cioè siamo sempre nell'ambito del movimento, diciamo, di dibattito rivoluzionario, però diciamo che il problema che portano questi organismi autonomi operai all'interno delle fabbriche è quello dell'estremizzazione continua delle rivendicazioni, anche in forme armate, ma che non ha un respiro strategico, e quindi sono destinati diciamo a morire, diciamo, da quel punto di vista lì, non hanno un respiro strategico, appunto. L'ultima, no, adesso per questo poi ho finito quasi. L'ultima differenza che non fa sposare la roba è che il sistema di reclutamento delle BR è diverso da quello che intendono i comitati comunisti. Scusate. Le BR vedono la forma di reclutamento in forma individuale, mentre invece i comitati, questi fuoriusciti, intendevano entrare, e se mai fosse stato, diciamo, in forma collettiva. E quindi questo, anche tra i tanti motivi, anche questo va in quel senso lì. La mia considerazione è che se 20 militanti comunque fatti e finiti, provenienti da un'organizzazione in maggioranza quadro operaio, di una situazione comunque strategica per il movimento rivoluzionario come era quella di Sesto, fossero entrati contemporaneamente all'interno delle BR, forse la storia in qualche maniera sarebbe forse anche cambiata, in bene, in peggio, non lo so, non ho idea. L'unico militante che esce e entra nelle BR è Walter Alasia, e esce sulla considerazione che è inutile andare a costruire un'organizzazione combattente, ce n'è una già fatta e utilizziamo quella. Finisco con giusto l'episodio, perché poi mi ricordo ancora per dire che questo è un dibattito dove praticamente ci sono due linee molto distinte, ma poi in realtà ci sono militanti che vanno da una parte all'altra in maniera molto... Sì. Perché è un periodo appunto di rottura, di svolta, quindi il dibattito c'è, aperto. I comitati, poi alla fine del 74, ci uniscono dei militanti, di ex militanti di potere operaio, diciamo gli scalzoniani, chiamiamoli così, che sono usciti, sono un po' sulla stessa linea d'onda, in costruzione di un'organizzazione che lavora nel movimento, bla bla bla. Quello che volevo dire è che già nel giugno del 75, da questo gruppo che verrà chiamato, diciamo, Senza Tregua, sono i Comitati Comunisti per il Potere Operaio, Senza Tregua era il nomignolo, diciamo, dalla rivista, esce Valerio Morucci da questo gruppo, portato appunto da Potere Operaio, e insieme a Valerio Morucci esce tutta la struttura diciamo militare di potere operaio, e all'interno dell'organizzazione sarebbe dovuta diventare il nucleo centrale d'attacco, diciamo, di Senza Tregua. Lui esce con tutto questo gruppo, quindi romani e anche torinesi, tra cui c'era Cristoforo Piancone, per intenderci, e oltre a questo gruppo a Roma escono pure il Comitato Comunista Centocelle e il Comitato Comunista di Cinecittà, che invece fanno lavoro di massa. Quindi in un colpo solo Senza Tregua perde e il livello militare e il livello di massa romano. Il livello militare andrà a formare le FAC, le formazioni armate comuniste, ma di lì a poco sia questa parte militare, ma anche i due comitati, diciamo, di comitati comunisti, Centocelle e Cinecittà, entreranno, non tutti insieme, comunque diciamo nell'arco di... costruiscono la colonna romana delle Brigate Rosse. Quindi anche in questo caso qui chi lo sa, se Murucci fosse rimasto all'interno, chissà cosa sarebbe successo. Questo, volevo dire questo. L'ultima cosa, posso? Esagerato? No, vai. Perché è sempre all'interno del libro interessante, perché poi se si vuole parlare, queste sono le cose anche che mi interessano. Allora, alla fine del 76, è vero che gli organismi autonomi operai vanno a perdere molta della loro forza, è assolutamente vero. Però è vero che contemporaneamente poi c'è l'esplosione del movimento del 77, quindi ci sono nuove figure, eccetera, eccetera. Le BR com'è che si rivolgono a questo movimento? E c'è anche una grande esplosione di lotta armata, di azioni armate nel 77. Nel libro viene detto più di 2100 azioni, quindi c'è una vera esplosione di questo diciamo metodo, di questo modo di operare politicamente. Come si rivolgono le BR? Intanto separano questi gruppi che fanno azioni armate in due grandi categorie. Una che ha una visione più strategica della lotta armata e quindi in qualche maniera può essere ripresa all'interno dell'organizzazione. Io penso ai Napo di Brescia piuttosto che la Dante di Nannia in Toscana, per come lo vedo io. Nel libro non sono esplicitati, ma io credo così. E poi c'è un'altra grande categoria, che è quella più vicina all'area autonoma, dove loro collocano anche quelle organizzazioni che sono nate, per esempio, da Senza Tregua, quindi Prima Linea, Comitati Comunisti Rivoluzionari, UCC, e poi dopo, volendo, l'FCC, le Brigate Comuniste, eccetera, eccetera. Come si rivolgono le BR al movimento? Si rivolgono in maniera molto semplice, alla stessa maniera, innanzitutto non c'è un'azione armata delle BR rivolta direttamente al movimento. L'indicazione che danno è la stessa che hanno dato alle avanguardie di Mirafiori qualche anno precedente: entrate nell'organizzazione per la costruzione del partito nell'ottica appunto di mettere in atto l'attacco al cuore dello Stato. E ho finito. Come andate? Bene. Un po' lungo. Grazie. Pippo, convalescente, ma sempre. Hai bisogno di questo, Pippo? Non lo so se serve o meno. Sì. La voce, com'è? Per la registrazione, Pippo. Va buono. Sono contento di essere qui, innanzitutto per un fatto mio biografico, perché è da 48 ore che sono negativo al Covid e quindi sono contento per questo. Ma sono contento anche perché secondo me quest'opera, questo libro è molto importante. E quindi voglio fare qualche considerazione. E innanzitutto, secondo me, con questo libro si mettono le cose a posto dal punto di vista storiografico. È vero che ci sono già degli scritti sulla storia delle Brigate Rosse, della lotta armata in genere, molti frutto di approfondimento, di elaborazioni critiche, ma una cosa, un libro che parte dall'esperienza interna alle Brigate Rosse, che spiega le Brigate Rosse da un punto di vista di un militante interno, io sinceramente lo trovo molto importante, perché scavalca completamente, ad esempio, quell'aspetto di ricostruzioni che sono state fatte basandosi in gran parte sugli atti giudiziari, sulle sentenze, sugli atti istruttori dei vari processi, che hanno portato al grande pubblico, diciamo, una visione assolutamente distorta delle Brigate Rosse in specifico. A questo proposito, io mi ricordo un episodio proprio nel processo Walter Alasia qua a Milano, quando Tonino Paroli, che probabilmente molti conoscono, un militante di Reggio Emilia, ebbe a fare un intervento anche spiritoso, dicendo, era il periodo della dissociazione, e disse: insomma, se le Brigate Rosse sono la cosa che voi mi descrivete, voi giudici, voi pubblico ministero, eccetera, eccetera, ebbene io mi dissocio e voglio tutti i benefici della dissociazione, perché se le Brigate Rosse sono questa cosa, io non voglio averci nulla a che fare. Bene, questo libro supera la possibilità di questo equivoco, perché le Brigate Rosse, per quello che io ho potuto capire nello svolgere la mia attività, nel conoscere tante persone assolutamente interessanti sotto il profilo umano e politico, sono quello che c'è in questo libro. Sono quello che c'è in questo libro, e quindi, tornando al lavoro di Nicola e di chi ha lavorato con lui, c'è anche una riflessione da fare rispetto all'oggi. Io, leggendolo, mi sono trovato a vedere la estrema povertà, l'incredibile squallore dei tempi di oggi, a livello di pensiero, a livello di elaborazione critica, mentre invece qui abbiamo uno spessore di pensiero, una profondità di analisi, è una coraggiosa tensione rivoluzionaria che viene espressa, che traspare da tutto quanto ci viene raccontato e descritto. E lasciatemelo anche dire, profondità di pensiero, tensione rivoluzionaria che è tuttora viva e presente, ad esempio, in Nicola e in tanti altri come lui. E bisogna dargliene atto in questo senso. In questo senso io sento di ringraziare Nicola e chi ha lavorato con lui alla preparazione di questo libro. Per quanto riguarda poi il mio contributo all'iniziativa, secondo me non ci si può aspettare che io svolga una approfondita disamina delle problematiche relative alle linee politiche e così via. Non so, io sono un lettore come tanti, e niente, ho trovato ad esempio secondo me interessante quegli aspetti che sono un pezzettino del libro, quello che riguardano il passaggio della centralità della fabbrica, la centralità della classe, ma è comunque la considerazione del nuovo proletariato metropolitano, questo successivamente, diciamo, alla formazione della nuova Walter Alasia, successivamente agli arresti del 78-79, e che portano a sottolineare questi aspetti e probabilmente poi portano a quelle varie discrepanze con il centro e così via, e alla rottura della Walter Alasia con il resto dell'organizzazione. Però non mi voglio diffondere, perché rischio, anche perché il Covid toglie lucidità, di dire qualche fesseria. Ma quello che posso offrire come contributo all'iniziativa sono elementi relativi al contesto legislativo e istituzionale nel quale si muovono le Brigate Rosse e si muovono i movimenti dalla seconda metà degli anni 70. Noi assistiamo nella seconda metà degli anni 70, c'è già stato già un accenno al fatto della crisi, alla gestione della crisi, la gestione della crisi in cui il riformismo non è più in grado di offrire nulla, no? E quindi alla classe operaia, ai movimenti. E quindi quando il riformismo non è più in grado di fornire nulla in tema di welfare, passa all'attacco sul piano della repressione e dell'apprestamento di tutte quante la strumentazione necessaria per tenere a bada e reprimere, non più con la carota ma con il bastone. E abbiamo un succedersi di leggi che sono emergenziali, e già la definizione di legge emergenziale è frutto poi di una mistificazione, perché vengono definite leggi emergenziali e in realtà entrano poi prepotentemente nel tessuto ordinario e normale sì, del nostro sistema penale. Un rapido elenco per capire come anche questa svolta, cioè prima dell'acuirsi di fatti di lotta armata particolarmente vistosi, noi abbiamo la legge Bartolomei del 1974 che inasprisce le pene sul piano della detenzione, porto di armi, la legge Reale del 1975 con l'uso legittimo delle armi da parte della polizia, che viene esteso ulteriormente rispetto all'articolo 53 del codice penale, e che consente anche, per quanto riguarda i reati commessi dalle forze cosiddette forze dell'ordine, una unica e centrale organo inquirente, che sono le procure generali e non più le procure della Repubblica. Viene centralizzata quindi l'iniziativa per un maggior controllo, che non vengano fatte incriminazioni per quanto riguarda tutti quanti i carabinieri che inciampano e sparano i posti di blocco e così via. Abbiamo aumenti della carcerazione preventiva, abbiamo l'introduzione dell'interrogatorio di polizia senza la presenza del difensore. Sappiamo tutti possiamo intuire che cosa significa l'interrogatorio di polizia senza la presenza del difensore. Abbiamo la possibilità di sospendere la decorrenza dei termini della carcerazione preventiva. Abbiamo delle modifiche del processo che sono paradossali, si può dire che si ispirino alla disciplina sportiva, nel senso che l'imputato che commette un paio di infrazioni durante il processo e viene espulso dall'aula, dopo due espulsioni non può più essere riammesso nel processo. E quindi la figura centrale del processo, che è l'imputato, cioè il soggetto fondamentale del processo, è l'imputato, viene estromesso se per caso ha fatto un urlo di troppo o ha detto delle male parole al pubblico ministero o cose di questo tipo. Dopodiché abbiamo, nel 75 era stata fatta la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario e abbiamo sostanzialmente la sua applicazione nell'ultimo articolo della legge stessa, che è l'articolo 90. L'articolo 90 che prevede la non applicazione di tutte le misure previste dall'ordinamento penitenziario laddove ci siano situazioni di particolare emergenza, e questo consente in modo pretestuoso e al di fuori da ogni effettiva forma legale la creazione del circuito delle carceri speciali. Sappiamo tutti che cosa ha significato il colloquio con i vetri, l'isolamento, tant'è vero che avremo poi negli anni successivi, quando si vuole applicare l'isolamento diurno a chi è stato condannato all'ergastolo, abbiamo delle pronunce giudiziarie che dicono no, non applichiamo l'isolamento diurno perché questi soggetti sono già stati sottoposti all'articolo 90 che equivaleva all'isolamento diurno. Quindi c'è la fungibilità della sottoposizione all'articolo 90 con l'isolamento diurno, e questo dà la misura di che cosa significava questo regime carcerario. Ma oltre poi all'articolo 90 pure semplice abbiamo i cosiddetti braccetti della morte, c'era quello delle nuove a Torino e da altre parti, che voleva dire l'ora d'aria ridottissima, qualche volta alla settimana, l'impossibilità di mantenere materiale per scrivere, l'impossibilità di avere libri e così via. Tutte cose che poi si sono ripetute in vario modo. E così arriviamo poi alle figure che innestano lo stravolgimento complessivo del processo penale. Abbiamo il decreto Cossiga del 79 che introduce la figura del pentito, la legislazione sui pentiti, la legge sui pentiti che è del 1982, la 304 se ricordo giusto, che fra l'altro anche lì è il pagamento di una cambiale che era stata firmata a favore dei vari Peci, Barbone, Sandalo e compagni, perché si riferisce nel giugno dell'82 questa legge sui pentiti che prevede le congrue riduzioni di pena, grandissime riduzioni di pena per i pentimenti cosiddetti eccezionali come quelli di Viscardi, Peci e compagni, per i reati commessi fino al gennaio dell'82. Cioè una legge non proiettata sul futuro, ma che vuole rimettere le cose a posto con quelli che hanno collaborato fino allora. E si lega poi anche alle prassi della gestione dei pentiti al di fuori della stessa istituzione penitenziaria. Abbiamo il fatto della casermizzazione, vengono tenuti nelle caserme con tutte le possibilità quindi di inquinamento dei racconti che vengono fatti dai pentiti. E fino all'86 c'è poi la legge sulla dissociazione, che anche questa è frutto di questa battaglia politica, cui già stato fatto un riferimento, per ottenere abiure e stravolgimenti anche di un pensiero filosofico sostanzialmente liberale, nel senso che la biura consiste anche nell'affermare che nessuna forma di lotta politica può prevedere l'uso della violenza, quando invece è storicamente dimostrato che le varie forme di lotta politica hanno di per sé dei connotati di violenza o possono comunque averne, e che la storia è frutto di questi sommovimenti e così via. E poi accanto a questi mutamenti legislativi abbiamo le prassi concrete, cioè, si va dai tentativi extra ordine, ma cioè al di fuori della legalità, di tentativi di infiltrazione. Oggi non ci ricordiamo più, ad esempio, delle vicende di un certo Renato Longo, che era un piccolo drogato che bazzicava come informatore la questura di Pavia e che viene assoldato, e gli vengono forniti fra l'altro esplosivi per fare una serie di attentati, fra cui, se non ricordo male, ne venne fatto anche uno alla casa dell'avvocato Gentili, che era difensore di Fioroni, di Barbone e altri pentiti, e che poi porta quindi all'incriminazione in relazione a questi fatti anche del commissario Filippi della questura di Pavia, e porta, cosa non secondaria, alla cattura di Moretti e Fenzi siamo nell'81. Ma poi il fatto più vistoso è quello che secondo me ha il suo culmine quando si tocca un nervo scoperto della presenza militare statunitense in Italia, il rapimento Dozier, che è le torture di Padova. Le torture di Padova che sono, ricordiamolo, è impressionante la lettura dei capi di imputazione, perché poi i torturatori dei Knox furono sottoposti a processo, e se si leggono i capi di imputazione, ad esempio, di Cesare Di Lenardo, che non riuscì a resistere a queste forme di tortura, che consistevano nell'ingestione di acqua e sale fino a che ti mancava il respiro, l'applicazione di elettrodi per le scariche elettriche ai genitali, portarti in campagna e fare click con la rivoltella dicendo che ti ammazzano, e poi nel riportarti dentro fino a che non pare. E lì questi capi di imputazione hanno la configurazione del tentativo, perché nel tentativo di ottenere delle confessioni e delle accuse ad altri tenevano queste condotte, con poi il paradosso che il capo di questi Knox, Salvatore Genova si chiamava, venne eletto all'interno del PSD in Parlamento, e c'è questa contemporaneità di tempi che non venne sottoposto a processo perché il Parlamento negò l'autorizzazione a procedere, che all'epoca era necessaria, in contemporanea con la concessione dell'autorizzazione all'arresto di Toni Negri, che però aveva fatto in tempo a svignarsela. E c'è nella sentenza del primo grado del Tribunale di Padova un'osservazione interessante che dice dagli atti istruttori emerge che è stata fatta una barriera per quanto riguarda il salire ai livelli superiori ai Knox, cioè al governo in buona sostanza, e quindi è anche inutile ritrasmettere gli atti al PM perché prosegua nelle indagini, perché tanto sono indagini che non potranno avere nessun tipo di effetto. E va ricordato che questo fatto della tortura viene preannunciato, perché proprio in quei giorni del rapimento Dozier uscì sui giornali la notizia che ci fu una riunione del CIS, del Comitato Interministeriale per la Sicurezza, e dice: approvate nuove misure contro il terrorismo. Queste nuove misure contro il terrorismo non vennero mai pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, perché non ebbero una forza di legge, una forma di legge, erano il via libera a questi tipi di trattamenti. E fra l'altro dobbiamo ricordare che era l'epoca del governo Spadolini, e c'era ministro degli interni Rognoni, che fu poi quindi coinvolto in questa storia della riunione del comitato interministeriale che da via libera alla tortura, fu poi ministro della giustizia negli anni successivi e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura negli anni ancora 88-89 o qualcosa del genere. E c'è, secondo me, oltre a questo fatto della tortura, i fatti poi ancora ben più pesanti, che sono gli omicidi di Via Fracchia, l'omicidio di Serafini e Pizzoli in Via Varesina, qua a Milano, no? Con una coda recente del fatto di Via Fracchia, che è stata che in seguito a una denuncia di un ricercatore universitario che è riuscito a mettere le mani sui fascicoli di Via Fracchia e ha denunciato per omicidio volontario per l'uccisione di Riccardo Dura, che è uno degli uccisi in Via Fracchia. Ebbene, viene per forza di cose aperta una istruttoria su questo fatto, e però il fascicolo su Via Fracchia è scomparso. Quindi l'istruttoria si ferma, perché il fascicolo su Via Fracchia dall'archivio del Tribunale di Genova era finito all'archivio di Milano, collocato a Morimondo, dove io sapevo che a Morimondo c'era un'abbazia, invece si vede che c'è anche un archivio del Tribunale, e però non c'è più. Non c'è più, e quindi l'istruttoria si ferma. Così il processo penale viene completamente stravolto, perché attraverso la figura del pentito non c'è più alcuna rilevanza sul piano dell'accertamento della verità dei fatti, non c'è più alcuna tensione sulla verifica dibattimentale, e c'è sostanzialmente la nascita del processo contro e del processo contro l'identità dell'imputato, nel senso che se tu cambi la tua identità e dimostri di aver passato la linea di confine, acquisisci fra l'altro anche in termini di linguaggio il linguaggio degli operanti, e dimentichi il tuo passato e ti fai portatore della logica degli inquirenti, allora avrai un trattamento sanzionatorio mine. Diversamente, se tu ti difendi e quindi non c'è sostanzialmente la prova di alcunché, se non le dichiarazioni dei pentiti, allora sarai pesantemente sanzionato. E sarebbe interessante uno studio linguistico sul linguaggio dei pentiti, laddove la loro abitazione, quando vengono sentiti dai PM, diventa il covo, no? Non hanno più una loro identità, c'è effettivamente sul piano anche psichico una completa rottura della personalità. E io devo dire che questo poi ha degli sviluppi successivi, nel senso che sono, adesso è inutile stare a dilungarsi, ma è una figura che anche con la riforma del nuovo codice, il cosiddetto nuovo codice di procedura penale, le varie forme alternative di processo, il patteggiamento, il rito abbreviato e tutte queste cose qui, ha acquisito, ha introiettato questo fatto che se l'imputato dimostra bene o male di collaborare, quantomeno nello sgravare i tempi della giustizia, avrà i suoi premi. E questo è il contesto sul piano istituzionale nel quale si colloca la vita dell'organizzazione Brigate Rosse Walter Alasia nel periodo che va dalla metà degli anni 70 in poi. Io faccio questo intervento molto breve perché mi piace concludere poi con quello che secondo me è la chiave di lettura più aperta del libro a cura di Nicola e di chi ha collaborato con lui. Questo perché è su questa base si può essere in grado di portare questo libro a un pubblico più vasto delle solite aree, perché leggo queste poche parole. La conoscenza di un momento alto dello scontro rivoluzionario e del dibattito su come affrontarlo, che si è sviluppato in un'organizzazione rivoluzionaria come l'EBR, come la conoscenza di ogni episodio della lotta di classe rivoluzionaria storicamente significativo, è sempre portatore di insegnamenti, positivi o negativi che siano. Questo secondo me è lo spirito anche che ha mosso Nicola nello scrivere questo libro, nel non voler presentare una verità a scapito di altre verità, ma nel presentare questo un episodio della lotta di classe che, qualunque sia la valutazione che si dà, possono essere portatori di insegnamenti positivi o negativi, e sono, sotto questo aspetto sono estremamente importanti. Ecco, io chiudo così. Concludiamo gli interventi con l'intervento di Manolo, sia come casa editrice del libro, ma anche perché voleva chiarire dei percorsi che stanno facendo sulla ricerca di detenuti politici e anche sulla lotta armata. Sì, allora cercherò di essere breve così da lasciare poi spazio al dibattito, visto che tantissime cose importanti sono già state dette. E come casa editrice Pi Greco, noi ormai da qualche anno, direi dal 2015, stiamo cercando di sviluppare un lavoro, visto che abbiamo la possibilità di farlo grazie all'editore che ci supporta, di ripubblicare o di pubblicare tutti quei testi che in diverso modo, in diversa forma, possano contribuire a ricostruire il percorso rivoluzionario non solo italiano, ma direi mondiale del secolo scorso. Per farlo ci siamo appoggiati a vecchi libri che non vengono più ripubblicati magari da decenni, ma che meritano di tornare all'attenzione del pubblico, di chi voglia leggerli. Penso ad esempio a Fronte del Cielo, la storia dell'aviazione del Nord Vietnam che combatté contro la preponderante forza degli Stati Uniti, oppure Il Monte Rosa è sceso a Milano, un libro decisivo per capire la storia della Resistenza, che era letteralmente sparito dalle librerie ed era ritrovabile solo come reminder a prezzi altissimi. Ecco, allora abbiamo trovato lo spazio anche in quella circostanza di rimetterlo in circolazione. Di rimetterli in circolazione come questi libri? Ovviamente cercando di evitare di fare delle nuove pubblicazioni che poi rimangano impigliate, non perché sia poco importante, ma perché la portata di questi lavori è molto più ampia all'interno del movimento. E quindi, grazie al fatto che la struttura di Pi Greco è una struttura a tutti gli effetti di una casa editrice, che ha quindi una sua promozione, una sua distribuzione, riuscire a riportare questi libri in libreria, convinti come siamo che poi possano, in tutte le librerie italiane, di tutta la penisola, convinti come siamo che poi possano trovare un pubblico interessato. E le cose ci hanno dato ragione. Se noi pensiamo che nel 2015 abbiamo ripubblicato L'Ape il Comunista, il cosiddetto documentone, il prodotto, diciamo, del collettivo dei prigionieri delle Brigate Rosse riuniti in quel periodo a Palmi, e che noi lo portiamo in ristampa almeno una volta all'anno per rifornire le librerie che ce lo chiedono. Ecco, questo ci fa capire come lo spazio per, come dire, riattualizzare un dibattito intorno a quelle vicende c'è e interessa non solo e non necessariamente il movimento, ma può, come dire, intercettare un pubblico ben più vasto. Siamo ovviamente contentissimi di aver potuto contribuire a questo lavoro di Nicola e dei compagni che se ne sono occupati. Non è la prima volta che noi lavoriamo con Nicola. C'è un altro suo libro, secondo me altrettanto importante, oltre a questo delle Brigate Rosse a Milano, che si intitola Guerriglia e Rivoluzione e che è uscito qualche mese prima di questo, e dove Nicola sviluppa un lavoro con le stesse prerogative che descriveva bene prima Pippo a proposito dell'intento, dello scopo ultimo, della filosofia, dell'approccio, diciamo, del militante comunista, ma anche dello studioso, alla vicenda delle Brigate Rosse a Milano. Ecco, lo esporta anche a descrivere le esperienze rivoluzionarie che vanno dall'Argentina alla Francia alla Germania, passando nuovamente per l'Italia. È un libro importantissimo, non so se sia qua disponibile, ma di fatto ve lo suggerisco perché Nicola completa, integra quella parte dedicata in questo caso alle Brigate Rosse, spostando il focus sull'ERP argentino, tanto per dirne una, e descrivendolo con lo stesso tipo di approccio, quindi con la dovizia del militante comunista che è anche uno studioso, che è un materialista dialettico, ecco, quindi una grande importanza. Ma i lavori che noi abbiamo fatto riguardano anche altri militanti comunisti che attualmente sono reclusi, penso a Crisi, Tendenza alla guerra e classe, scritto a quattro mani da Gianfranco Zoia, purtroppo morto da un paio d'anni, da 2 o 3 anni, e Franco Galloni, tuttora recluso, o ancora Penso con le mani, sempre dello stesso Franco Galloni, ma anche adesso abbiamo appena pubblicato di Dimitris Koufantinas il suo lavoro sulla 17 novembre. A breve pubblicheremo una storia di Action Directe, scritta direttamente dai protagonisti. Ci sono dei compagni che si stanno occupando di tradurre questo libro, che per il momento c'è solo in francese. O ancora a breve pubblicheremo una storia, un libro dal titolo particolare, vale a dire Il gatto pasqualino, adesso non mi ricordo più nemmeno se sarà questo il titolo finale, che partendo da un piccolo episodio del carcere di Novara, dove diciamo una gatta uccise diciamo tutti i suoi gattini, ma uno, i compagni lì dentro reclusi riuscirono a salvarlo, e quel gatto diciamo divenne testimone e partecipe di una stagione di resistenza all'interno del carcere, diventa il pretesto questo libro scritto da un compagno vicino alle Brigate Rosse che si chiama Salvatore Scivoli e che tuttora si trova recluso, diventa il pretesto per raccontare la stagione delle rivolte carcerarie, un altro libro a cui teniamo molto e che a breve uscirà. Diceva Pasquale in conclusione del suo intervento, ricordava appunto questi militanti, quindi questi militanti che ancora scrivono non sono seppelliti, nonostante diciamo la volontà, l'intento e i tentativi del potere di, come dire, oscurarne per sempre la presenza e la vitalità, perché questa vitalità in qualche modo la si fa uscire. Non sono nemmeno reclusi in galera, come dire, per un vezzo identitario per cui decidono di non uscire, a differenza di tanti altri che invece sono usciti. Diciamo che gli ergastoli combinati nel corso di questa lunga stagione di lotte sono sicuramente superiori ai compagni che sono attualmente reclusi, ne restano appunto una ventina, e io volevo ricordarli. Secondo me è anche importante ricordarli e dividerli anche in due gruppi, e poi vi spiego perché. Allora, in un primo gruppo ci vanno Francesco Donati, Nicola De Maria, Stefano Scarabello, Franco Galloni, che si trovano nel carcere di Alessandria, Rossella Lupo, Barbara Fabrizi, Susanna Berardi, Vincenza Vaccaro e Maria Cappello, che si trovano detenute a Rebibbia. Si è cambiato qualcosa, perché questi dati sono un po' datati, insomma, però se è cambiato qualcosa il senso resta valido. Tiziana Cherubini, che si trova o si trovava agli arresti domiciliari a causa di di gravi problemi di salute. Stefano Minguzzi, Antonino Fosso, Michele Mazzei, Cesare Di Lenardo, Carlo Garavaglia, Fabio Ravalli e Franco Grilli, che si trovano detenuti nel carcere di Terni. A un secondo gruppo appartengono Nadia Lioce, che si trova all'Aquila, Roberto Morandi, che si trova ad Ascoli Piceno, credo, Marco Mezzasalma, che si trova anche qui, credo, presso il carcere di Opera. Perché ho distinto in due gruppi questi compagni? Perché nella trattazione che faceva prima Pippo c'è un'altra data che secondo me è importante ricordare, che è quella del 31 dicembre 2002, che è una data che segna l'ingresso, come dire, in vigore nel nostro ordinamento penitenziario del famigerato articolo 4 bis. Quello che prevede che per i reati politici non sia possibile richiedere i benefici di legge previsti dalla legge Gozzini antecedente a questa data. Il primo gruppo quindi non rientra, diciamo, nei vincoli di questo articolo. Il secondo gruppo vi rientra, tant'è vero che sono tutti e tre anche al 41 bis, oltre a essere all'ergastolo. Questa non è una differenza di poco conto, evidentemente, anche dal punto di vista, come dire, politico. Significa che quel percorso che è valido per il primo gruppo di compagni detenuti con l'ergastolo e che è il percorso che in qualche modo la legge Gozzini permette intorno ai 26 anni e con gli sconti di pena intorno ai 21 di uscire sostanzialmente di galera, a questi compagni del secondo gruppo è sostanzialmente precluso. È per questo che alcuni di loro, quando scrivono fuori a proposito di ergastolo, dicono essenzialmente una cosa, che quando si combatte contro l'ergastolo e l'ergastolo ostativo bisogna ricordare sempre che i compagni che rimangono dentro, in particolare quelli del primo gruppo, non rimangono dentro a causa dell'ergastolo ostativo, ma rimangono dentro essenzialmente perché stanno difendendo la loro identità politica e rivoluzionaria. Questa è una differenza essenziale che va sempre, come dire, tenuta in considerazione quando si parla di queste questioni. Mi scrive a tal proposito, e quindi ve lo leggo, Franco Galloni, a proposito del percorso che porterebbe un compagno come lui, ad esempio, a dover uscire di galera e al perché appunto esiste questa differenza, diciamo, tantissimi ergastoli, ma solo pochi che li stanno scontando. Esiste una cosa che si chiama GOT, qui c'è Pippo, mi tirerà le orecchie se dico qualche castroneria, ma credo che nella sostanza non dirò castronerie, che è un gruppo, il cosiddetto gruppo osservativo trattamentale, che è il gruppo, diciamo, interno all'istituzione carceraria che deve decidere se quel certo detenuto si sia comportato bene, sufficientemente bene per poter accedere appunto ai privilegi previsti dalla legge Gozzini. È un gruppo che è composto dagli educatori, dal capo delle guardie e dal direttore del carcere. Quindi è evidente che il GOT si riserva la possibilità di concedere i benefici se ti sei comportato bene. Quindi non è sufficiente comportarsi bene. Devi anche, come dire, essere nel favore di questo GOT per poter poi accedere tecnicamente a questi benefici di legge. Qualora il GOT conceda questi benefici, puoi arrivare a quel discorso dei 21 anni che dicevamo e che porta all'uscita. Ma ci scrive Galloni dal carcere. Tutto qui? E allora che aspetti a uscire, Franco? Dice Galloni, il segreto della legge Gozzini è tutto in quel concesso. Certo, tutto può essere concesso, ma qualcuno di voi si è mai chiesto a quale prezzo? Questo è il capitalismo, bellezza. Infatti tutto può essere venduto e comprato, è solo una questione di prezzo. Il GOT però non è un'istituzione di beneficenza e chiede in cambio delle sue concessioni, la cosiddetta, cioè, revisione critica del proprio vissuto, che a casa mia significa riconoscere che le proprie scelte politiche sono state un errore personale e storico. Chiedere scusa alle vittime con lettere autografe, sempre a casa mia, questa si chiama abiura. Sì, va bene, dice sempre il nostro Franco, tu falli contenti e coglionali. Ma da qui, nel ventre del mostro, vi posso assicurare che il mostro non fa niente per finta. Questo ragionamento andrebbe bene se io facessi parte dell'onorata società, della criminalità organizzata. Infatti Osso, Mastrosso e Carcagnasso, i tre mitici cavalieri spagnoli che fondarono mafia, 'ndrangheta e camorra, diedero ai picciotti cinque cose belle: il coltello, la pistola, il rasoio, la buona politica e la cattiva politica. La buona politica è l'obbligo di fedeltà e sincerità nei confronti degli affiliati singolarmente e della società in generale. La cattiva politica è la possibilità e il dovere di mentire e tradire gli estranei. Ma disgraziatamente, o piuttosto per fortuna, siamo prigionieri politici e per noi l'unità del politico e del militare, l'unità di lavoro manuale e intellettuale sono un fatto, non un'opinione. Questo riguarderebbe, abbiamo detto, il primo gruppo, ma il secondo gruppo non ha neanche la possibilità di confrontarsi con i tre cavalieri che fondarono la criminalità organizzata. Quello dei compagni, cioè, con l'ergastolo ostativo. Si entra, cioè, qui nella vexata questio dell'ergastolo ostativo di cui tanto ho letto nelle riviste e nei fogli di movimento. Gli ergastolani della criminalità organizzata hanno da sempre il 4 bis e quindi l'ergastolo ostativo. Chi ha il reato ostativo sia per una condanna a termine che per fine pena mai, cioè per l'ergastolo, può chiedere che gli vengano concessi 90 giorni, anche sotto il regime del 4 bis, ma non può accedere agli altri benefici. Nel caso degli ergastolani significa cioè morire in carcere. Per poterci accedere, riflettiamoci quando parliamo e ricordiamo i compagni che stanno in questo momento al 41 bis e quindi hanno il regime del 4 bis, che sono i compagni Mezzasalma, Lioce e Morandi. Per accedere ai benefici della Gozzini, questi ergastolani devono ottemperare a quanto stabilito dall'articolo 58 ter ordinamento penitenziario, che prevede direttamente la collaborazione con la giustizia. Siccome i mafiosi, ndranghetisti e camorristi sono obbligati alla buona politica, non possono divenire collaboratori di giustizia, ma siccome sono stati anche dotati della cattiva politica, non hanno difficoltà a revisionare il loro vissuto e a scrivere lettere di scuse. Per questo si battono non per l'abolizione dell'ergastolo, ma per la sola abolizione dell'ergastolo ostativo, che è quello che gli impedisce di fare questo passaggio e che quindi gli permetterebbe di ottemperare al loro motto «calati giunco che passa la piena». Ora, e chiudo, io credo che quindi questa operazione di ripresa dei contatti con la galera, forse che non si è mai interrotta, ma attraverso questi contributi di questi compagni ci dà la prova appunto di quello che diceva prima Pippo, e cioè che se c'è vitalità rivoluzionaria spesso ci arriva da dentro ancora, mentre da fuori non riusciamo ad avere non solo la stessa vivacità ma anche la stessa lucidità, mi verrebbe da dire, perché gli interventi dei compagni spaziano, come in questo caso, dalle questioni storiche, che poi sono anche questioni analitiche, ma riguardano anche la contemporaneità. Se penso al libro scritto appunto che citavo prima da Franco Gallone e Gianfranco Zoia, ecco, affrontano questioni che hanno a che fare con l'oggi, con lo scontro di classe attuale che passa dalla green economy e arriva fino alla cosiddetta questione della logistica e della logistica militare. Quindi io credo che questo lavoro vada fatto, vada proseguito sempre in maniera più scientifica, attenta e corretta, e ci si debba sempre porre in relazione con questi compagni che stanno ancora dentro esattamente in questi termini, riconoscendo che stanno continuando la loro battaglia anche per noi che stiamo fuori. Grazie. Ok, abbiamo finito gli interventi, come speriamo di aver dato quel quadro che il libro presenta. Se qualcuno vuole intervenire, stacchiamo quel microfono, potete cominciare di qua. Vieni qua. No, altrimenti non si sente. Volevo ricollegarmi a quanto detto da Manolo della lettera di Franco, a proposito della lettera di Franco Galloni. In realtà non è nemmeno, cioè la biura non deve nemmeno essere formalizzata in maniera eclatante, perché è vero che ti viene chiesto eventualmente di scrivere delle letterine di pentimento, eventuali familiari di vittime, eventuali, a volte non ce ne sono nemmeno i familiari reperibili o comunque si prestino operazioni del genere, ma non è nemmeno obbligatorio, basta che si manifesti l'intenzione. Quindi qui si va proprio in un discorso che è quasi psicoanalitico. Dal momento che a distanza di decenni dei fatti che ti sono stati contestati, per cui è stato condannato in definitivo, non c'è possibilità di dare un contributo effettivo a nessun tipo di inchiesta in corso, dal momento che inchieste non ce ne sono perché i fenomeni sotto inchiesta non esistono in questo momento. Quello che lo Stato vuole da te è un'altra cosa, cioè il fatto che tu a distanza anche di decenni, in qualche modo anche non ufficialmente spargendosi di cenere il capo, però faccia presente che comunque sei disposto ad accettare le regole del gioco vigenti. E le regole del gioco vigenti sono state inaugurate dalla legge Gozzini, cioè dalla premialità. Tutto quanto fai E appunto, in virtù del classico principio Valsone-Carota, portato alle estreme conseguenze. Non dimentichiamoci che prima con la legge sulla dissociazione e poi con una sorta di informale rompete le file, la stragrande maggioranza, la quasi totalità dei prigionieri politici degli anni 70-80 sono usciti, ovviamente molti anche per fine pena come sottoscritto, ma molti altri perché appunto hanno approfittato, non tanto i dissociati ovviamente hanno approfittato della legge formalizzata in tal senso, ma in seguito attraverso molteplici strade si è trovata la forma comunque per uscire. Ma quando questa forma diventa sostanza, cioè tocca direttamente quello che è il motivo per cui tu sei in carcere, cioè la tua identità politica, che diventa anche identità di vita, identità di storia, identità di essere collocato in un contesto che giustifica quello che hai fatto e quello che stai facendo, è evidente che non ci possono essere momenti di mediazione. È evidente allora che la risposta, come quella di Franco Galloni, un compagno al Gassolano, è quella ovvia ed è quella che motiva la loro posizione, che per molti è incomprensibile, ma per me invece rappresenta il massimo di identità che possa esprimere un compagno nel contesto specifico in cui purtroppo continua a essere inserito. Già che ci sono il microfono in mano, ne approfitto perché questo dibattito precedente mi ha fatto riaffiorare antichi ricordi. Qui vedo che l'età media, per fortuna, è piuttosto elevata, e ovviamente la mia notazione ironica, e quindi mi posso consentire qualche svolazzo analitico rivolto al passato, relativo anche al mio percorso di militanza, ad esempio. Io quando entrai nell'organizzazione, la prima cosa che mi venne detta era relativa alla risoluzione della direzione strategica del 75, dove si parlava delle tre fonti e tre parti fondamentali delle Brigate Rosse, ovvero la storia del movimento comunista operaio internazionale, ovvero la rivoluzione culturale e la storia dei movimenti antiimperialisti nel mondo. E questo già poneva un discrimine con altre posizioni. Io venivo da una militanza marxista-leninista ortodossa e quindi ero, diciamo così, completamente interno a quello che erano i cosiddetti paradigmi teorici e punti di riferimento terzo internazionalisti portati poi in maniera più o meno grottesca fino alle estreme conseguenze nell'Italia della fine degli anni 60, primi anni 70 e non nell'Italia, nell'Europa dei fronti popolari degli anni 30, ma non importa, questo è un ulteriore parentesi ideologico. Ebbene, la prima cosa che mi venne detta è che per le Brigate Rosse la lotta armata non era una forma di lotta, ma era una strategia. Era la soluzione che le Brigate Rosse davano al problema del potere, alla classe, in uno dei paesi più avanzati del centro imperialista occidentale. A fronte del totale fallimento delle ipotesi riformiste, è ovvio, ma anche delle ipotesi gradualiste, come quelle a cui si accennava prima rispetto all'atteggiamento, ad esempio, di lotto continuo dell'avanguardia operaria rispetto a un presunto fronte popolare radicalizzato a sinistra dopo l'appoggio alle elezioni al PC riformista, ma anche ad altre posizioni politiche che identificavano la lotta armata non come una concreta strategia per la conquista del potere, ma semplicemente come una forma di lotta che in quel momento il movimento poteva utilizzare. E quindi mi viene detto chiaramente che non era una forma di lotta e tantomeno si trattava di sindacalismo armato e tantomeno si trattava di chiedere uno più di quello che chiedeva il sindacato con il supporto alle armi. Era tutt'altro. Era la soluzione originale data a un'organizzazione clandestina al problema della presa del potere del proletariato in un paese dell'Europa occidentale. E da questo derivavano tutta una serie di conseguenze. Quando ad esempio si arrivò alla teorizzazione del cuore dello Stato, è vero che una delle critiche che allora circolavano è il fatto che si trattava di un'azione troppo al di sopra del livello di coscienza raggiunto dall'avanguardia in quel momento erano sul campo, con quanto è stato anche ricordato, cioè la non riproducibilità ad esempio. Ma è altrettanto vero che si arrivò a formulare l'attacco al cuore dello Stato attraverso non un'analisi astratta, ma attraverso la concretezza di rapporti di forza che già avevano posto lo Stato contro l'avanguardia di lotta della e la lotta armata ai suoi esordi. Tanto è vero che l'altro cuore dello Stato venne promulgato con l'operazione Sossi. Sossi era un pubblico ministero, Sossi fascista, cioè il primo della lista, famoso non soltanto per la sua opera di repressione in quanto pubblico ministero delle avanguardie rivoluzionarie di Genova, ma anche perché aveva avuto un ruolo fondamentale nel primo processo politico contro militanti della lotta armata clandestini, cioè il gruppo 22 ottobre genovese. E quindi si trattava di articolare con questa operazione l'esempio pratico di cosa significare, di cosa significava unificare le necessità di lotta delle avanguardie che dovevano uscire dal terreno delle lotte di fabbrica, dal terreno delle lotte sul territorio per approcciarsi al discorso della lotta di potere, deretizzandosi con la necessità di attaccare quello Stato che questo passaggio impediva. Di qui la scelta di Sossi. Non dimentichiamoci poi come andò l'operazione Sossi. E non dimentichiamoci nemmeno che, al di là del caso Padovano, che fu praticamente un incidente sul lavoro, diciamolo chiaro, dei due militanti dell'MSI uccisi dalla Federazione di Padova, la prima operazione con esito mortale delle Brigate Rosse fu quella di Coco, che era esattamente la prosecuzione su un terreno più elevato della campagna iniziata con Sossi. E quindi l'indirizzo chiaro della formulazione nella pratica dell'attacco al cuore dello Stato. Ci sono parlati di altre cose, molte cose. Un altro elemento che va ricordato dal punto di vista dell'analisi storica del periodo è il fatto che comunque dopo l'operazione Moro e anche prima, dopo la campagna del primavera del 78, il problema dell'organizzazione era quello del passaggio dalla propaganda armata alla guerra civile dispiegata. Un passaggio che doveva essere graduale, che doveva dipendere dall'acquisizione di rapporti di forza all'interno della classe e della classe contro lo Stato, ma chiaramente non ebbe mai una soluzione e non poteva averla. A questo problema cercarono di dare soluzione le diverse correnti in cui a un certo punto l'organizzazione si trovò a dividersi, quello che noi chiamavamo il centro, la Valterlasia, il PG, ovvero il Partito Guerriglia. Ma in realtà non si riuscì a dare una formulazione netta alla soluzione di questo problema, perché nel frattempo il panorama complessivo era totalmente cambiato. La sconfitta operaia dell'80 a Torino, non solo, ma la ristrutturazione produttiva che era già iniziata prima, appunto con la crisi 73-74, cominciava a modificare non soltanto la catena produttiva ma anche la composizione stessa della classe, e tutta una serie di la controrivoluzione che nel frattempo aveva totalmente schiacciato quello che era l'antagonismo, la ritirata indecorosa dei gruppi, tutti ritornati o sciolti o autosciolti, o tutti rientrati nell'ambito del parlamentarismo più deteriore, delle posizioni politiche più filorevisioniste, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a queste difficoltà complessive si aggiunse poi la difficoltà soggettiva delle diverse esperienze che erano augurate all'interno dell'organizzazione, quella milanese in primis, che aveva la sua originalità, che è stata ricordata, che è la base del libro che viene presentato oggi, ma anche ad esempio l'esperienza veneta o quella napoletana, che aveva una storia tutta loro più specifica, e soprattutto quella romana, che condizionò moltissimo quello che era la linea politica della DS, della direzione strategica che noi chiamavamo il centro all'epoca. Comunque, giusto per riattualizzare un po' la situazione, per non parlare solo di storia, mi piacerebbe ricordare che tutta una serie di temi che le Brigate Rosse avevano fatto oggetto della loro riflessione e delle loro teorizzazioni, guarda caso, sono ancora di un'attualità bruciante. Voglio dire che da mattina a sera chiunque accende la televisione, non in questa fase, ma un paio di mesi fa, poniamo a cavallo delle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, hanno a che fare con l'emotive del progressivo svuotamento delle forme della democrazia rappresentativa, nello specifico del parlamentarismo, a favore di un maggior centramento di poteri nell'esecutivo. Cioè un processo che è in atto, ma che le Brigate Rosse denunciavano come in atto già a metà degli anni 70. Avevano perfettamente chiaro che si andava a uno svuotamento delle forme classiche elettoralistiche per garantire il consenso, tanto è vero che il consenso veniva delegato a quello che noi definivamo il sistema dei partiti, che indipendentemente dall'esito elettorale, che di volta in volta poteva cambiare, doveva garantire il radicamento nel sociale delle politiche degli esecutivi. E non dimentichiamoci il tanto vituperato SIM, tanto sbeffeggiato all'epoca da analisti di ogni corrente politica più o meno marxisti, lo Stato imperialista dei multinazionali, cioè la ricerca verso il chiarimento di una situazione che oggi è sui occhi di tutti, cioè l'assoluta dipendenza in senso lato della politica delle varie borghesie nazionali da quel che sono le necessità della grande finanza e delle grandi multinazionali. E quindi l'inserimento dell'Italia nella catena imperialista attraverso una politica che prima di tutto doveva fare riferimento alla divisione internazionale del mercato del lavoro e quindi alla collocazione che grandi gruppi multinazionali davano all'Italia nell'ambito del confronto est-ovest, della NATO, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che allora facevano ritenere dal punto di vista dei riformisti le analisi delle Brigate Rosse farneticanti e deliranti, ma che a distanza di decenni dimostrano un'attualità, secondo me, incredibilmente spendibile anche come un momento di analisi contemporanea. L'altro giorno mi è capitato di sentire in uno di quei dibattiti terribili che stanno monopolizzando i mainstream televisivi un vecchio trombone di ambasciatore che ha una velata critica sulla gestione propagandistica della guerra imperialista attuale, rispondeva dicendo che noi comunque avevamo avuto la fortuna di essere nati dalla parte giusta del mondo. Ecco, noi siamo nati nella parte giusta del mondo, giusta per fare la rivoluzione e abbattere questo sistema. Superate la paura, superate la paura. Devi parlare? Cioè, vieni, stai pure lì. Ah, ok, mi appoggio qua perché. Allora. Niente, io a parte tutto questo bellissimo momento, che per me veramente è stato anche emozionante e ha portato anche a tanti ricordi, alcuni piacevoli, alcuni meno piacevoli. Ecco, io volevo ricordarvi un attimo qual era l'esperienza nei quartieri, che poi, esperienza che poi con l'andare del tempo ha portato a tutto quello che abbiamo sentito prima. Io sono cresciuta in un quartiere come il Giambellino, un quartiere popolare, e venivo da quella che era l'esperienza, diciamo, studentesca dei gruppi extraparlamentari. Eravamo alla ricerca comunque, nonostante la poca esperienza maturata nelle scuole, di un lavoro strutturato e organizzato collettivamente. Questo cosa ci ha portato a fare? Abbiamo scelto in diversi dello stesso quartiere di entrare in lotta continua e quindi abbiamo fatto tutto un percorso all'interno delle strutture che lotta continua col tempo si era data. sono nate le sezioni di lotta continua, quella del Giambellino era una sezione molto grossa, alla quale partecipavano, diciamo, per quanto riguarda la commissione lavoro, c'erano operai della Dalmine, della Osram, della Farmitalia, della Philips, della Siemens, eccetera. Erano commissioni grosse che si occupavano non soltanto di quello che era strettamente il discorso salario, ristrutturazioni, eccetera, ma anche di quelli che erano i bisogni sia degli operai ma anche del proletariato in generale, quindi la casa, il problema degli sfratti, gli affitti. C'era un movimento fortissimo anche di autoriduzioni delle bollette, che è durato anni e diffuso. Ecco, io facevo parte della commissione sociale all'inizio, che eravamo quasi tutte donne, e diciamo che non avevamo da insegnare a quello che erano le donne del quartiere. Abbiamo avuto molto da imparare da loro. Perché? Perché loro dicevano che tutto è politica, quindi è politica anche fare la spesa. Allora si organizzavano, noi le aiutavamo a scrivere i cartelli contro l'aumento dei prezzi, contro quello che vivevano, appunto, il caro affitti, eccetera. Cartelli che poi le donne portavano al mercato rionale di Via Audazio o al mercato rionale sempre di Giambellino Vecchio, che ora non esiste più, e da sole, con nostro aiuto, loro si gestivano l'intera situazione. Quindi era come un diciamo un confrontarsi continuamente, un arricchirsi a vicenda di queste cose. Poi vabbè, c'era la commissione degli studenti, che erano poi tutti i figli del quartiere, che nelle scuole a loro volta lottavano per il diritto allo studio e che però partecipavano anche come sostegno alle occupazioni di case, sia quelle collettive, e ce ne furono parecchie in quegli anni, e che quelle che alcuni facevano a livello singolo. Era un fiorire di queste cose, perché la gente non si poneva tanti problemi. Non ho la casa, beh, ce n'è una vuota, la occupo. Non dovevi far tanti discorsi, semplicemente trovare un piede di porco che ti permetteva di aprire la porta. Questo era molto semplice. Intorno c'era anche una solidarietà da parte della gente, che non ti vedeva come l'estraneo, l'occupante, sapeva che eri uno di loro e che quindi andavi sostenuto comunque. Una cosa simpatica era anche, io ogni tanto lo racconto, l'organizzazione delle portinaie che avvisavano gli inquilini di quando arrivava l'ufficiale giudiziario per fare i pignoramenti. Allora, quando sapevano che il giorno dopo sarebbe arrivato l'ufficiale giudiziario, automaticamente i quadri, gli averi di queste persone salivano al piano di sopra oppure scendevano al piano di sotto. Quando arrivava l'ufficiale giudiziario c'era il letto, il tavolo e tutte le cose che non si potevano sequestrare. E quindi l'ufficiale giudiziario non aveva che da segnare che il sequestro aveva avuto esito negativo, e la faccenda finiva lì. Ecco, sono tutte cose che oggi facciamo proprio veramente, è quasi impossibile vedere. Ecco, noi poi in quartiere avevamo anche a disposizione due punti di riferimento importanti. Uno era il centro sociale di Via Manzano. Allora, il centro sociale di Via Manzano non è il centro sociale che noi siamo stati abituati a vedere, era una struttura del comune, vi andavano gli anziani a giocare a carte, a trovarsi, a fare quattro chiacchiere, e noi giovani ai quali avevamo, che avevamo a disposizione delle salette dove potevamo fare i cartelli, scrivere i volantini, preparare. Io ci portavo pure i miei fratelli perché mia madre non aveva tempo e quindi portavo dietro i miei fratelli. La cosa ridicola è che poi uno dei miei fratelli, che più o meno all'età di Manolo, faceva disegnini a scuola, tutti di uomini rossi che facevano grandissime battaglie contro gli uomini neri. Tant'è vero che la maestra chiamò mia madre dicendo: guardi, non è per quello che penso io, è per quello che pensano i genitori degli altri bambini. Dovrebbe dire a suo figlio di colorare un po' di più i disegni. E questo faceva parte della coreografia. Poi c'era anche una parte dedicata alla controinformazione, parola importante, parola che ha tanti significati. Controinformazione significava inchiesta, significava conoscere il quartiere, ma non solo il quartiere, conoscere anche personaggi del quartiere. Facevamo un bollettino, siamo arrivati al culmine di fare un bollettino con tutto in questo bollettino, dalle fotografie agli indirizzi, alle cose, che veniva distribuito tranquillamente come se fosse un'appendice del giornalino di quartiere. Ok. E poi la pratica anche normale, quotidiana, dell'antifascismo militante, che non era la cosa che puoi vedere di andare a tirare quattro slogan. No, era altro, era molto di più. Ed era una cosa comunque che nasceva dal quartiere stesso. No? Nessuno si poneva il problema se era giusto o sbagliato. Come nessuno si poneva il problema se vedeva gente fare delle scritte a qualunque ora, di alzare la cornetta del telefono e chiamare la polizia. Quando misero quelle famose colonnine SOS chiama aiuto la polizia, ecco, primo giorno la colonnina era in piedi in Piazza Tirana, il secondo giorno c'erano solo le fibre della colonnina in Piazza Tirana. Allora rimisero un'altra colonnina, non arrivò neanche al secondo giorno, il giorno dopo non c'era più la colonnina, e la colonnina non venne più ripristinata. Questo per dirvi il clima che poteva esserci in quartiere. Abbiamo avuto anche il periodo in cui, è già stato accennato molto bene prima, del discorso delle ronde operaie. Con la parte operaia della sezione di lotta continua, noi il sabato mattina facevamo queste, le chiamavamo spazzolate, nelle piccole fabbriche medie dei dintorni del quartiere, quindi andando verso Cesano Boscone, quelle zone lì che erano tutte zone di piccole fabbriche. Anche lì episodi incredibili, no? Noi entravamo nei cancelli, questi si nascondevano dappertutto, compresi nei cessi, negli ascensori, dove riuscivano a nascondersi per riuscire a continuare il lavoro. Ma noi non andavamo via fin tanto che non era uscito l'ultimo. Un giorno c'è stato un episodio ridicolo, suona un telefono dentro questa fabbrica mentre noi siamo tutti lì dentro i cancelli, e il padrone si guarda intorno, mi vede, ero l'unica donna, e mi dice: scusi, non potrebbe rispondermi al telefono? E gli ho detto: ma stiamo scherzando, sono qua a fare la spazzolata e rispondo sul telefono. Ecco, c'erano anche queste cose che erano pure divertenti, però ci sono stati anche un padrone che sparò agli operai che stavano facendo appunto il picchetto, ed è stato una cosa molto, molto dura. Ecco, io non lo so, noi abbiamo vissuto dei periodi bellissimi, sotto questo aspetto. Bellissimi sotto l'aspetto della solidarietà, della comprensione, della curiosità. Eravamo curiosi di capire, ci si interessava di tutto, dall'Irlanda alla Spagna, alla Palestina, che è sempre stata importante, al Sud America. Cioè non c'erano argomenti che non venivano sviscerati e ascoltati. Ecco, io penso che in tutto questo la cosa che possiamo dire è che sono state esperienze che io mi ritengo fortunata ad avere vissuto. E anche se queste esperienze possono aver avuto una conclusione, io ho sempre imparato che ci vuole tempo, pazienza, ma che comunque la nostra vita non finisce col grigio di oggi e neanche finirà quando noi abbiamo chiuso gli occhi. La nostra vita è molto più importante e la nostra vita era la rivoluzione. La difficoltà di dibattito penso che sia dovuta anche alla complessità del libro, e senza averlo letto è un po'. Per questo compratelo e si vende lì. Ne disponiamo, avremo occasione di discutere ancora. Buonasera compagne, buonasera compagni. Noi come collettivo il 4 luglio abbiamo presentato questo libro e crediamo che sia un po' vergognoso che sia passato quasi un anno dalla seconda presentazione di questo libro a Milano. Questo è il primo punto. È passato quasi un anno dalla prima alla seconda presentazione di questo libro. Già questo secondo noi è un problema. Ragioniamo sul libro, ragioniamo su per quale motivo un compagno come Nicola scrive un libro del genere, qual è il suo intento, se non questa è la nostra interpretazione, se non riaprire un dibattito su quelli che sono i problemi concreti della nostra classe. E noi su quello ci vorremmo soffermare. Poi tutti i ragionamenti, abbiamo sentito una serie di ragionamenti interessantissimi, un'analisi storica importante, concreta, presente, precisa. Nei fatti ci troviamo nel 2022 con problemi attuali, e se ci leggiamo questo libro una serie di risposte ci sono. Che cosa può essere la nostra risposta? Che cosa può essere la risposta del passato, del presente e del futuro? Ci sono all'interno del libro, ci sono tutte ste robe. Quindi invitiamo i compagni a comprare il libro, leggerlo, studiarselo e fare una serie di ragionamenti su quella che può essere il nostro tipo di risposta. Ora, facciamo un passettino indietro. La compagna Renata ha fatto una serie di ragionamenti bassi, come a noi. Noi, quando parlo di noi, parlo del collettivo, quelli del mercoledì di Micene, quindi un collettivo di un quartiere popolare. E sono i ragionamenti che partono dai bisogni nostri. quali sono i bisogni nostri? La casa, il pagamento di una bolletta equa, meglio anche non pagarla, però equa, quelli che sono i bisogni di una qualsiasi persona che lavora e campa o campa e lavora. Vedetela voi come volete. Una persona normale, normale. Da lì dobbiamo ripartire. Quelli che sono i nostri bisogni, i bisogni della nostra classe. Quando si parlava degli operai in Fiat, degli operai in Alfa Romeo, mio papà ha fatto parte dei collettivi dell'Alfa Romeo, mio zio che era qui prima faceva parte dei comitati Alfa, ma da quello partiamo. Io stesso lavoro in una fabbrica metalmeccanica e con lo stipendio non ce la faccio. Non ce la faccio, non riesco a campare. Se pago le bollette, tutte, non riesco a pagare l'affitto. Da quello dobbiamo iniziare a ragionare. Quali sono i nostri bisogni? La grande esperienza che ha dato la Walter all'Asia, quella è stata riniziare a parlare dei bisogni degli operai, non fare voli pindarici, non ragionare su cose grandissime, ma ritornare a parlare dei bisogni della nostra classe, ritornare a parlare degli operai, quali sono i loro bisogni, quali sono i nostri bisogni, per quale motivo non ce la facciamo alla fine del mese a tirare fuori i 20 euro, i 30 euro per pagare la bolletta. E da quello ribisogna partire. Io credo che il grazie più grande al compagno Nicola De Maria su questo vada fatto. Un compagno che sta in galera e che rinizia a parlare e si fa un mattone così, fa uno studio immenso, non per parlare di cose astruse, ma per riniziare a parlare di cose nostre, di cose nostre. Da quello credo che bisogna ripartire. Quali sono i nostri bisogni, quali sono i nostri interessi. Potremmo discutere davvero tanto su quelli che sono i nostri bisogni. Non è il momento, non è il caso, non lo so. Però parliamo di noi, parliamo di noi. Parliamo di noi. Pasquale, devi intervenire. Ah no, e se non ci sono altri interventi, vedo che ci sono già i capannelli vari, chiudiamo e discutiamo nei capannelli, va bene? Grazie a tutti, alla prossima.